era solo riscaldato. Infatti mi ha detto, dice, dammi un colpettino di cacciavite e vedi un attimino se lo smetto e parte, se no è partito. Infatti ho dato un colpo di smetto, è tutto normale. Anche fortuna. Queste radio col marchio Claudio Sparviere sono sempre fortunate. E ha scaricato, ti ha detto di scaricare il dio praticamente. Non hai fatto altro che scaricarlo e quindi è tornato a salire lo smitter, tutto qua. Vabbè, era normale se fosse stato il finale, non avresti avuto i picchi di modulazione, invece va bene, sono contento, tutto risolto. Va bene, ho uscito anche Antonio qua, dove si girella. Computer, sono stanco, adesso spengo tutto, fare pareti, radio, radine. te, ciao ciao. Buonanotte signor Claudio, ci sentiamo domenica. Sono andato qui e ti aspetto domenica, capito? Va bene, ci sentiamo domenica, arrivederci, buonanotte. Sono andato, buonanotte anche a te, ciao ciao. Claudio, scusami se per caso mi hai chiamato, avevo tua risposta, ma mi hanno chiamato adesso. Ehi, d'accordo. No, niente, vabbè, poi fammi sapere appunto di quella varia, perché mi pare era stato cambiato qualcosa che però non era di del suo due non so se erano due transistor o due diodi, due o tre, che però non erano quel valore esatto, capito? Leggermente più basso. Sempre su quella scheda del VCO, quindi se ti capita di sentirlo diglielo a Carlo, capito? E io che dai, mi ha detto soltanto di avere del mio cuore un attimino di pazienza, perché in questa settimana proprio che era pieno e poi gli è capitata qualche urgenza e comunque è stato scelto tutto lì. Non ne ho fatta io lì, se mi mancasse la radio forse avevo avuto fretta, ma non ne ho di problemi, di farlo con calma, con tranquillità, non ci sono problemi, ce ne ho abbastanza di radio, quindi poi ce l'ho 4:40, perciò ci sto parlando. Quando arriva, quando secondo lui è pronto da usare, allora me lo manda, così non facciamo brutte figure, dai. Ti mando un ascolto, Sandro, vado a cenare, ci sentiamo. Va bene, ma c'era anche io rimango in stand by, ce la sentiamo qua. Yes, ce la sentiamo. Gavino, l'hai sentito? Tutto bene, sta andando? Ma a Gavino ho sentito parlare, mi sembra io, tutto quanto, no? Sembra che stia procedendo bene con l'apparato lì, no? Mi ha fatto un bel lavoro, beh. Non te l'ho sentito, ho un bel accoppiamento anche con l'80, però voleva fatto quell'accorgimento che abbiamo fatto, altrimenti non spinge. Comunque adesso va molto bene, dai. C'è un po' che non sento, un po' assente, vabbè che oggi non c'ero tutto il giorno, quindi non lo so. Sono anche io che sono un po' di giorni che non lo sento. Qualche volta rifaccio qualche chiamata, ma non lo so. Vabbè. Per me, Claudio, sei coincidente più tardi. Yes, non lo so, vediamo, sarò sicuramente un ascolto, un agguato. Bisogna fare sempre un agguato, sia che qualcuno poi magari mi cerchi e non mi trova, invece è meglio esserci. Però non so se parlo, vai, ma già ci sono più tardi. Ci sentiamo, ciao, buon carico a te famiglia, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao, salvo qui a Pronto, chi è? Attenzione, Naomi Campbell. Buonasera, dottor Gianni. Allora, dall'agricola, come va? Aspettando che piova, invece non è voglia di piovere ancora. Ma se non sarà più ci sta facendo. No, io devo andare in moto. Deve andare in moto. E allora? Purtroppo da un po' di tempo a questa parte non stiamo vedendo che queste cose. Dice che dovrà finire il mondo il 21 di ottobre, non è finito il mondo, ma sta non si capisce, non ce ne erano mai state queste cose, adesso di colpo. Anche qua eravamo! di antenne. Guarda, secondo me è stato fatto apposta, perché la parte di giù è quella più grossa. Se fosse stato quella di sopra, ok, ma se lui dice che è troncata la parte di giù è quella più grossa, come fanno? L'antenna va bene, Gianni, quella della TV1 va bene. Cavagava. Con quella base lì. Sì, con questa base qui va bene, l'antenna del 2001, perché se no non l'ho messa. Stazionale regolate, già. Quello non è stazionale, mi sono accettato con la luce. Che è, ma si misurano sempre per regola, su 1, su 20, su 40. Ma se no, come cavolo si chiama? Ciao, ciao, buonasera. Una donna, una voce Infatti. Ehi, sono qua, come manca allora? Ci devo trovare un po' di emozione. Dai, che ne parliamo che mi devo una via. Che ho pagato, ragazzi. E vabbù. Sempre così 80 si fa. Così 80, no, allora sono sempre... Sempre con la tua luce già, l'ho finto. Vedi, sto facendo... Stiamo facendo i lavori di due casi, ho finito poco fa, io ho alle 7:30. Poi sono salito, mi sono fatto la doccia e tutto qua. Sono tutta la situazione è qua e tutto è niente. E sono andato a cambiare la segna. Pagato. No, ho detto, sempre i corsi 80, con l'apparato, con che vuol dire 80 si riesce. Sì. Non mi ricordavo che c'è 140, tu butto. Avevo, ma l'ho venduto, capito? Ci mi sono ascolto che non funzionava in trasmissione. Ce l'avevo, ma l'altro l'ho venduto, questo è un regalo che mi aveva fatto Claudio, che sto utilizzando adesso. Ah, capo. Hai venduto il 140, ma 40, ma 40. E quello era pompava quello che c'era il 140. Ma anche questo è già uno scherzo già. Solo che non lo faccio uscire come mi fate, capito? Perché l'alimentatore non ce la fa. Kappa. Avanti, lì si rende di sì. Il capo, buonasera comunque. A tutti e due. Come fa? Buonasera. E adesso bene perché siamo ben sdraiati, ci siamo spamparanzati. Un po' di dolorini, insomma. Sarebbe lui, io ci faccio così di moto. Se sono molto lavorare, se quando stava bene, siamo 23 gradi all'andata e al ritorno 19 gradi, ma non c'era freddo di nulla. Meglio questo, quanto da per te, guarda. Questo è venuto il chemo 200 euro, quello che avevo io, il 80. Veloce, l'ho venuto. Sono contento, guarda, la verità. Perché l'ha venuto? Così l'ho venduto, perché mi ha dato subito i soldi in contanti, la verità. E quindi lo apro. Sono veramente contento, la verità. Perché poi non c'è nessun problema e niente, mamma mia. Vabbè, se ti facevano bisogno di soldi. Molto per quello, quindi sono a posto. E sono contento. Almeno non c'è nessun problema. Ma dov'è? Ma perché la moneta lo stai facendo così? C'avevi abbigliato il volurino? Se ne sapevo, tu non l'hai pubblicizzato. Tu non l'hai piglia per così, lo sai. Lo stai già una volta e tu la parecchi non la prendi così. Tu puoi fare anche nuovi, senza doccia B, senza niente, quindi no. Ma tu lo devi fare quel motivo lì, non per altro. No, se l'ha tenuto bene naturalmente, io sono un po', sì, sono grigiliato in queste cose, non mi piacciono gli apparecchi graffiati, queste cose qui, no, ma se si possono rimettere a posto non c'è problema. Che ha pagato, vabbè, è venuto, si dà bene a lui, forse un po' passa le fumate, vero? Tutto per quello, quindi, 200 euro ho venduto. Al volo, veloce. Ma valeva 300, va. Sai, non è proprio niente di quello che valeva, la verità. Fatto lì il coso, quindi... Adesso sono che prendo per la via in culo. Tanto ci lo stesso, non è che... Tutto per quello. Il problema non c'è. Ma in un modo o nell'altro c'è, dici, barra agricola. Ma se non sono Alessio! Ah, salutoni! Sento, turbina, se ci sei! Che sta detto turbina? Turbina, marito! Sì, turbo, dai, cantore, che turbo! Le nome se non è turbina, è già cantore turbo! Ah, io sono collega trattorista, praticamente detto che c'è il cantore di tubolo e l'hanno messo turbina di illuminativo. Sento, turbina. E c'è in carrozzina. Prendi fra, cosa ci racconti di bello? A me, sette travaglieri, da una parte all'altra, sempre lavorando, io non ti racconto. Tutto qua. Poi fuori lui. No, negativo, sto facendo, sto lavorando giù ai carri, ho portato un po' di apparecchiature giù a mancare, capito? Cioè, oggi ho finito un po' tardi perché c'era una lecciera da finire per non farmela domani. Domani se tutto va bene dovrei finire presto, però già. Ho finito l'anno già. Ho già finito già, sono andato male. Tu cosa stai pensando di così? Brava, ho già piazzato due, ce ne sono altre tre da piazzare. Sarà anche a parte i russi questo qui. I russi? Se non c'è un lato a lei. C'è un caso di lavoro, io e lui. È meglio così, più tranquillo stai. Ma io sono fisso con quello già, il problema non è, sono a tempo indeterminato, capito? Non è di qualche problema. Ma dico, se c'è lavoro, la vita continua ad andare avanti. Anche per lui va bene, no? Era lì, tanto sono là. Lui, i miei figli e io, boh, basta, non c'è altro nessuno. In tre. Cappa. Già va bene, è figlio lavorare. Insomma, noi siamo un po' pratico, già impara piano piano, a carrare già va bene. Cappa, c'è andare in casa, guidando anche il camion grosso. Via. Adesso abbiamo dovuto prendere un camion grosso da Lulligio. Domani perché dobbiamo portare la macchina praticamente laggiù dal magazzino, portarle su. Con la pedale idraulica. Brava. Mi aiuta un bel quello lì. Mi aiuta un bel. Quando abbiamo caricato i frigoriferi sul furgone senza pedale idraulica di ne esce avanti. Grazie, no, ma a collo, lui. E a collo, sul furgone bisogna fare a collo così. Loro rialza, lui per non fare retromarcia. E gli puntiamo la prima parte, poi ma scendo dal furgone, no, no, non ce l'abbiamo dispeso, che insomma, finisci la massa. Bene, lo so che ti dica, purtroppo così. Questo carcere l'hai visitato, fra. Sì, è una grande, ti perdi, lì, già. Ma sai, ti sta dicendo una cosa allucinante. Ma dov'è esattamente? Io non ce l'ho mai compreso dove sia, lo sai. Allora, mi stava facendo la discoteca al passo, guarda. Sì, ma non arriva alla discoteca, dove c'è l'incrocio, poi che va per Mancari. Ho capito. E tiri dritto per l'incrocio per Mancari e poi tu vedi tutte quante mi ricacci sulla sinistra. Praticamente è una costruzione enorme. Ce ne stanno carcerati. Allora ci stanno 1500 carcerati. Ogni carcerato c'ha praticamente la televisione in camera, capito? Ogni cella c'è la cosa, la TV. Vabbè, già, dico, c'hanno la palestra, c'hanno tutto, dai, diciamo, tutto. Sì, Iaco, viene furato, c'è che da travaglia a mani gratis, a pensare, al televisore, alla palestra, che lavorando non devo manco permettere di andare in palestra perché cerco sempre di risparmiare. Vabbè, da un po', boh. Già, vabbè, comunque, ma hanno fatto una bella cosa, sono un botto di miliardi, ma ci sono, direi. Oh, la libertà non è mai pagata, puoi avere quello che vuoi, ma che mi sei rinchiuso. Vabbè, quello è vero, già, io, è purtroppo così. Vabbè, non ci vuoi fare. Però non stanno male, non si sta male, diciamo, mi pare che arrestare anche io. Buona sera. Ciao. Porto Torres. Buonasera Gianni e buonasera Luca. E Luca, è Franco. Franco California, avanti. Ma Gianni, buonasera, ben ascoltato per la primiera. Buonasera. Buonasera Franco, se non sbaglio, Sandro da Porto Torres, dai. Sandro Silvestro, sì. No, non sono Sandro Silvestro. Quello lì è già nuovo Silvestro. E c'è la stessa voce, perché questo sono la donazione. Sì, ma non si chiama Sandro, si chiama Giampaolo Silvestro. Ah, cappagappa. Sandro è un altro che porta il fuoco, Giampaolo. Quello ti fa dare il controllino. No, non ce n'è bisogno. Se mi state rispondendo vuol dire che mi ascoltate, dai. Dicevo a Franco perché era tanto che non accenna. Ma poi, Alessandro, dove sta arrivando giù a Papadango? Fa la cortesia, poi ti potrà cambiare il rapporto e segnale. Ma qui da me mi stai arrivando Santiago 9, con leggeri picchi positivi. La radio è un po' rimbombante. Comunque, comprensibilissima, anzi, ma... E io disegnare quanto ti arrivo, e Gianni, 9,5 con leggeri picchi di positivi. Signorina. E vabbè, perché io e Franco sono più o meno vicini. Ho capito. E vabbè, adesso magari, non lo so, dipenderà dal parato, dipenderà, non lo so, comunque c'è... Ah, poi lui sta usando un pivot, io sto usando il magno. Infatti c'è una modulazione un po' troppo rimbombante. Prova, non lo so, prova a passare un attimino, Franco. Vedi un po' adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, adesso ho abbassato il microfono, non so se riesco di meglio. Forse il timbro tuo di voce che ti fa la voce, diciamo la voce grossa, lì. La voce grossolana e poi rimbombante. Ma come stai usando MC60? Ho capito, vabbè, magari il tuo timbro di voce, dai, ce l'hai. Ma no, io ho la voce già, diciamo che... Come voce ce l'ho grossa di per sé. Ehi, capo, allora per quello, dai. Allora è per quello. Va bene. E da parte mia, come mi stai ascoltando? Tanto. Allora, il tuo rapporto di segnale è 5-9 qua. Ehi, ok, dai. Già va bene. Vabbè, siamo abbastanza vicini, dai. Mi sono ritornato da poco, ho mangiato, penso che sono sbagliato 5 minuti perché ho la schiena a pizza. Che si dice? Tutto ok, tutto procede per il meglio. Stiamo aspettando che entri qualcuno perché sono venuti a mangiare e adesso stiamo aspettando che vengano. I signori di Bellippini. Ho capito, vabbè, è importante che sia... L'importante è che sia tutto ok, dai, che sia tutto per il meglio, va bene, hai sentito quello di Tomatore, sì. Io l'ho sentito, mi pare sia parte di me. Diciamo che è sposato, diciamo, con una figlia di Mele, ma lo conoscevo, cazzo, la cosa. Stamattina quando l'ho saputo così per caso, cazzo, sono rimasto così, guarda, ti posso dire, un ragazzo normale, tranquillo, bello, educato, sono male, tu guarda, pensate. Sì. Ma cosa vuoi che ti dica? Allora, diciamo che solo lui lo potrà sapere cosa gli è passato per la testa. Io sono dei momenti in cui, diciamo, la testa, secondo lei, la testa gira tutta la roba, tutto lì. Guarda, avrei il coraggio di fare un atto del genere, sa. Uno deve essere tutto disperato e non ragionare più, perché avere il coraggio di farti del male a te stesso è difficile. Uno deve avere un po' di depressione, lo fa così, se no non... Purtroppo, tante volte le persone sembrano normali, sembrano tranquille, risorridenti e cose, poi dentro di sé magari hanno qualche tuba che li perseguita, che non riescono a risolvere qualche problema. Noi non lo sappiamo, magari lo tiene dentro ancora peggio, però sfogano così. Vai a pensare che cosa diciamo gli stava frullando per la testa, diciamo che grazie a Dio il lavoro ce l'aveva, non è che se non ce l'aveva, poi non lo so, guarda, non so neanche possiamo soltanto noi immaginarci, possiamo soltanto così, ma poi dalla persona proprio dentro se stesso, poi diciamo che arrivare a tanto, diciamo, è un coraggio diciamo non da poco, sì, è proprio la depressione che ti fa fare certe cose. Io una volta ne ho salvato uno che si stava buttando dal ponte, ero con Natalino e ho detto: Natali, guarda dove si è buttato un tipo l'altro giorno, e proprio era stava buttando un altro, tanto lì sto buttando uno, cioè, ma ti correndo io l'ho acchiappato per la gamba e faceva una gamba fuori. Natalino l'ha preso per i vestiti, l'abbiamo ritolto fuori dalla ringhiera e mi ha detto: ma lì manco il padre posso morire, e ho detto: perché vuoi morire, la vita è bella, e quello lo dici tu, mi ha detto. Poi abbiamo fatto sedere in macchina, abbiamo parlato e alla fine dopo la trappola di soccorso l'abbiamo fatto ricoverare in psichiatria. Lo so, purtroppo sai cos'è, purtroppo di questa gente c'è molta perché per questioni diciamo personali o per questioni diciamo di uno come conduce la propria vita, o perché i momenti, diciamo adesso con questi momenti di crisi, con questi momenti diciamo difficili e così via, diciamo la persona logicamente non è più serena. Ehi, guarda, non è facile. Berlusconi vuole dare la pensione a 67 anni. Sento una di più, non si danno ancora in pensione. È allucinante, boh, non si ne capisce niente. Ma io adesso la prossima stavo ascoltando lì, giusto, ho girato canale. Sulla 7 c'era questi qua, c'era Fini, c'erano altri. Poi mi sembra che c'era la Girmini, insomma, e si stavano un po' a ti picchi uno con l'altro, ma solite cose di questa lettera che hanno presentato lì alla Unione Europea, che poi a quanto pare questa lettera è stata bene accettata. Poi Fini ha annunciato che la moglie di Bussi è andata in missione a 39 anni. Da lì è uscito fuori un putiferio, cioè, insomma, è allucinante. E ci sono, io ho sentito cose allucinanti davvero, c'è gente che praticamente lì sta un mese, due mesi, poi si rende conto che non è una cosa per lui, se ne va via si prende il 3.000 euro di pensione, loro dicono vitalizio, ma la pensione è brutta, 3.000 euro non li prende mai come operaio che facendosi il mazzo, capito? No, ma 3.000 euro forse non li prende neanche un primario, forse neanche un direttore di banca, forse io adesso non lo so, non voglio sparare qualche stronzata, però non lo so, secondo me questi stanno tirando la cinghia, poi a fin dei conti vanno proprio questa cinghia si spezza e proprio a Dio, perché non se ne può più, vado dai, Franco ci sei ancora. Vedrai che arriva la guerra civile. No, mai venga qui in politica già, mai venga quel punto di casta. Guarda, se dovesse venire qualcosa del genere, guai, perché poi intanto chi ci piace il piccolo, ecco. Purtroppo ci stanno manipolando come vogliono loro. Adesso sentite la nuova legge che devono fare, che praticamente si può licenziare senza motivo. Ah, sì, l'altra nuova. Il licenziamento è facile, cioè, è allucinante, cioè, basta che un datore di lavoro, poniamo il caso, tu adesso il mattino entri a lavorare, no? E così per magari passa davanti dal datore di lavoro, così magari tu sei solo al pensiero, non saluti, non è niente, lui se lo prende male, va bene, da domani è licenziato a casa, ma ci rendiamo conto. E sì, è così. Prima c'erano delle leggi da rispettare, adesso stanno facendo sì che non ci siano manco leggi da rispettare, né niente, che facciano quello che vogliono. Già ci stanno trattando come ci stanno trattando, perché stiamo ritornando indietro di 100 anni, al periodo degli schiavi, capito? Allora scusa un attimino, a questo punto allora mi fa pensare che si vuole arrivare all'anarchia, via. Sì, non ho più l'anarchia, la dittatura. No, non esiste, dai, non esiste, perché a questo punto stai andando a provocare, diciamo, stai andando, diciamo, a svegliare il cane che sta dormendo, diciamo, dai, no, a questo punto, diciamo, ti stai andando a creare, diciamo, il putrefatto, a creare il malumore, a creare qualche rivoluzione, a creare qualcosa, dai, non si può. Purtroppo siamo in mani loro, che stanno facendo quello che vogliono, ma quei sindacati riescono più a prendere la situazione in mano. Se dici qualcosa al sindacato ti risponde, bisogna stare tranquilli perché siamo in tempi brutti, ma cosa ti stiamo pagando a fare? Mamma mia, hai toccato una categoria, per carità, lascia stare. Io, anni addietro, vabbè, però lasciamo andare, vai. No, non esiste, guarda, preferisco non entrare in quella categoria. Mangiarina è bassa, venduti tutti e mangiarina. Non esiste, ma comunque cosa possiamo fare? Purtroppo diciamo che è una battaglia, è una battaglia continua, ma cosa vuoi dire? Speriamo bene. Passano fretta la partita. È partita la fretta. Vabbè. Di qua, eccolo. Sì, c'è una ventolina sul dissipatore, adesso è partita, vuota, via, non riesco a capire, Allora, dovrebbe funzionare così, Alessandro, quando raggiunge una certa temperatura la ventola si attacca, quando si raffredda il dissipatore si ristacca, dovrebbe essere così. Sì, ma in effetti è così. Ma in effetti è così. Infatti sto toccando il dissipatore un po' caldo, ma non è che sia caldo eccessivamente. Sì, no, arriva adesso la temperatura, diciamo, e si attacca, poi si stacca. Boh, sarà qualche protezione che gli hanno messo, Capo, se si stacca forse perché si è raffreddato. E forse ha alcuni sprang, c'è un timer, con qualcosa di... magari che bisogna la temperatura, e con la temperatura lì si stacca pure. Sì, beh, è logico, ci sarà, senz'altro ci sarà un timer, diciamo, che lo fa partire quando raggiunge quel tot di calore, perché in effetti nel dissipatore dietro, diciamo, che ci sono i tre finali, perché io l'altro giorno ho chiamato e ho detto, ecco, non è questo vento, dice, perché siccome questo c'ha due finali, c'ha due o tre finali, dice, questa ventolina della Noessa, ma è piccolissima mica questa ventolina, considera che sarà una ventolina un 5x5. Non so, sono messa loro questa ventola. Sì, nasce così, questo proprio nasce così. Però di quanto l'avevi pagato, adesso? Questo diciamo che io l'ho preso a seconda mano, però diciamo che è seminuovo, questo è seminuovo, questo diciamo a me me l'ha lasciato 3, capito? Però di listino questo supera i 5. Ma l'ho preso da una ditta? Sì, da fuori. Gatta. Ah, va bene, allora. Se c'è tutte queste cose, i tassi illuminati, tutte queste cose qua, è bellino. Sì, c'ha tutte le manopoline. C'ha tutte le manopoline, tutte illuminate. Diciamo per cambiare il canale illuminato, tutto illuminato, poi il display, diciamo, dove c'è il lago e tutto quanto, quando moduli, in stand-by diventa celeste, in modulazione poi diventa rosso, cioè lo vedi che secondo i picchi di modulazione lui si illumina, diventa più fosforescente o meno fosforescente. Poi c'è il display dello speaker, della frequenzimetro, diciamo, così via. Quello lì c'ha tre colori diversi, c'ha rosso, il celeste e il blu. Quindi le puoi cambiare come vuoi. Ciao Giulio, una curiosità, ma la stessa potenza del tuo è quello che ha Alessandro? Ho capito. Se ha la stessa potenza del tuo quello che ha Alessandro? Non so, Alessandro, quanto c'ha di potenza quello lì? Allora, questo diciamo in stand-by è dato per 40, poi con i picchi di modulazione supera i 60. No, questo è 80 watt. Quello 80 è importante, poi quando uno lo libera anche a 90, così? Beh sì, ha dei picchi positivi. Quello diciamo che magari esteticamente forse fa più bene perché è illuminato eccetera, poi anche da bere è quello, però a meno potenza il problema è quello, dipende da stare. Ehi capo, ciao Giulio, buonasera. Sì, vabbè, piccoli diciamo particolari che potrebbe avere più, e poi diciamo lo svolgimento diciamo è quello lì, e basta, a parte tutte le sue cosettine, le sue memorie. su piccolo, diciamo, fa la sua figura, Sì, senz'altro. No, perché considerando questo, tu si illumina, come hai spiegato, quando diciamo invece la potenza, praticamente come presso si è equivale a quello che vuol dire, perché uno ha una cosa di retrovata, però è bella ugualmente, cioè bella ugualmente. Non è così, già? Ma il mio è tutto blu, praticamente c'ha lo smitter che è blu, poi c'ha il frequenzimetro tutto blu e il numero dei canali che è tutto blu, però i cosi pomeriggio si illuminano come quello di Sandro, capito? Quindi di Sandro sono di quei pomeri luminosi. Vabbè, ma non interessa perché l'apparecchio a me piaceva molto che come estetica, questo qua l'ho preso perché mi piaceva, se no non l'avrei preso. Io lo sai che a me oltre la potenza mi interessa anche l'estetica di un apparato. Sì, certo. È importante, l'estetica è importante. Se a uno piace una certa estetica, magari può lasciare delle certe cose. Però quello di Alessandro mi sembra che ha una larghezza di banda superiore alla tua, così bene? Ma a 14, 12, non mi arriva sino alla H. Capito. Ma tu invece quello di Alessandro arriva da sui 10 metri praticamente, così Alessandro. Sì. In effetti qua sta fa 25-30 Sì. Vabbè, metti a 10 metri ci arriva con 12 anni. Il tuo quanto arriva già? 28 o 29? 29 e passo. Ah, vabbè, io mi ero sotto il bravo, lo diciamo, tanto su quella potenza non ci si può arrivare. Cioè, non possiamo arrivarci, dunque. Sì, vabbè, è importante che nella politica ci sia anche quella potenza. Quindi se vuole ascoltare, ascolta magari. Però non lo possiamo usare. Ma aspetta, Ogia, ma quello che c'è tu c'ha il coso dello smitter rotondo, giusto? Cappa. Ho capito, no, questo è il classico smitter. Classico smitter normale. Normale tranquillamente, dai. Poi a parte il dimmer della luminosità, che il dimmer diciamo sarebbe per più forte, meno forte, diciamo, la luminosità, diciamo, dei pomelli, del frequenzimetro, dello smitter, poi c'è un altro pomello, insomma, ne ha. Capito. Però molti pomelli non ne hanno quegli apparecchi, vero? Hanno solo lo smitter, ma niente il smitter molti pomelli. No, negativo, non ho tanto questi apparecchi che vengono utilizzati, bene o male, per lo meno da me è come un apparecchio normale. Rimetto sempre la potenza nemmeno la metà e praticamente li uso come un apparecchio normale, dai, non ci vado mai nemmeno ascoltare gli altri canali, quindi. Sì. No, anche perché io penso che se tu mi dai un po' di potenza, cioè potenza al massimo, comincia anche a diventare la voce un pochino più robusta, più rossa, come quando uno mette un lignano o qualcosa del genere. Non proprio così, ma diciamo che sicuramente un effetto di cambiamento ce l'ha. È avuto, specialmente in vicinanza, sì. La potenza fa quel effetto lì, anche se nasce già così lo fa lì vicino. Dipende da fa. Ok. Va bene. Adesso si è staccata la ventola già. Vedi, adesso si è staccata. Vabbè, dai. Piccoli, diciamo, accorgimenti in più, ma io ritorno sempre al discorso con Alto Gianni, che secondo me, diciamo, l'estetica vuol dire molto, anche, diciamo, se per dire non ha tutti gli occhi sulla nave, però l'estetica, diciamo che è tutto. A me quando io metto davanti all'apparato modulare mi piace vedere anche un apparato che a me piace, non dire che compro un apparecchio che dà un bel di watt, ma vizioso, sarò vizioso, quello che vuoi, però mi piace così. Ma non è questione di essere vizioso, è questione che in effetti vedere un bel apparecchio fa sempre piacere, il problema è quello, anche perché intanto tutte le caratteristiche poi non riesci mai a sfruttare del tutto, e dunque a me personalmente ci fai gli occhi guardando però. Comunque ho fatto la prima vittima al microfono, senza portare il microfono, ma come caggio in terra e ho rotto il DM1000. E tu perché non hai fatto come ho detto io? Ma perché avevo fatto il microfono e non dovevi niente. Mi sa che io ho paura di spaccare il legno. Ho paura che magari perché da qualche volta si spacca. Ho paura di quello, di quello. Poi vediamo di studiarlo insieme come metterlo, perché almeno uno lo voglio mettere, un portamicrofono lo voglio mettere, perché quando finisco di parlare invece di appoggiarlo sul letto, che poi il filottino se lo porta in terra, dove lo appoggio lì come facevo con l'altro. Ma non è vero, tu non devi avere nessuna paura, perché spaccare non spacca proprio niente, hai capito? Tu li puoi mettere, le vitti dove ti fai il viaggio, non ci sono problemi. Tu li puoi mettere anche a un centimetro dallo spigolo, non ci sono problemi, vetti dove vuoi. Piuttosto devi fare attenzione a non mettere il porta microfono all'altezza dei piani, perché sennò tu quando vai a chiudere non chiude, capito? Perché non c'è la parte. Beh, quello l'ha già studiato, lo stavo ideando dove c'era più vuoto, naturalmente, al centro dove c'era più vuoto, così quando chiudi non tocca niente. Infatti, deve essere così, ci metti il porta microfono, ce lo metti attaccato allo sportello, tranquilli, anche quando si è aperto, se non vuoi chiuderlo la volta, ti vai addormentato, non è un problema, appendi il microfono e lo chiudi domani mattina, capite? È la pantera che non lo vuole bucare. Tu dici che non vuoi essere il tuo. Ma riprendi lo Franco, se ci sei. Non lo riprendi. Ehi, ok, dai, la riprendo io. E ne approfitto, dai. Ne approfitto io a farmi la mia solita passeggiatina col signorino, va bene, dai, buon proseguo di questione, Giulio, buona serata, ci sentiamo tutte le prossime, dai, ciao Giulio. Come sta? Sono tu, mi avete detto, ciao, buonanotte. Ciao Sandro, ciao, buonanotte, ci sentiamo. Buona passeggiata. Oggi non c'è freddo, si è molto, e si stava bene, c'erano 23 gradi giù, quando sono sceso alle 5:30, quando sono salito erano 20 gradi, poi sono salito a 19, quando sono arrivato quasi vicino a casa, ma era una temperatura abbordabilissima. Sì, no, oggi è una bella giornata, sì, in effetti, stasera stava bene. Ascolta già, un'altra idea, volevo dirti, se non vuoi bucare, mettici un pezzo di biadesivo. L'ho fatto io, il mio regge il microfono, quello biadesivo, dunque, i problemi ci sono. Così non buchi il fratello, lo dico. E anche quello, il mio biadesivo, quello che c'ho io non è molto buono. Ho provato a mettere quei fari che li ho attaccati all'apparecchio, invece che metterli come erano prima, ti ricordi, li ho attaccati da un lato e dall'altro dell'apparecchio del Galaxy e mi fanno illuminano di blu di notte, hai capito? E una particolarmente si stacca sempre, non capisco perché l'altra ha resistito, una si stacca sempre. Ho provato a mettere in un altro pezzo, ho detto magari quella va presso la colla, mi ho messo in un altro pezzo, poi si stacca di nuovo. Ah, ho detto va, adesso mi pare che si è beccato, mi porto un po' di silicone, così non si stacca più. Ma tu devi fare così, adesso parlando sempre per il microfono, tu prendi e attacchi il porta a microfono, lo attacchi col biadesivo, però il microfono non lo appendi subito, magari lo appendi lì domani, capito? Per dare modo al biadesivo di attaccare come si deve, perché se tu lo carichi subito, al momento, subito appena che lo attacchi, non è che sia molto forte, però lascialo un pochino, poi vedrai che non si stacca più. Adesso proviamo. ho bisogno di questo forza microfono, uno ce l'ho con la calamita e lo posso attaccare, anche l'apparecchio. All'altro bisogna di attaccarlo lì, perché cavolo, mi serve da appoggiarlo, quando io finisco di parlare, finisco con te, prendo, tacco. Ma certo, se l'ho detto, tu di un buscolotto, o ti do io un buscolotto, e le portate a corso la macchia di terra, dove le buscolotti dove piano, ci sono tanti blocchi, ne utilizziamo e ci chiamo. Sì, ma non è... diciamo che non è molto comodo, quando sono coricato mi piace più nello sportello perché ce l'ho davanti, prendo, super, l'appoggio via, invece devi farsi graffa, invece nello sportello è più comodo. Vabbè, certo, quello sì, mi ci sono dubbi, sono cose che ti posso consigliare, allora vediamo un po'. E non lo consiglio quello, non so, stavo pensando, so se può mettere una di quelle guide come quella della, del piano scrittorio, no? Lo tiro fuori e la gancio, ma esteticamente è dritto, anche se rimane all'interno, però esteticamente è dritto. E poi magari te lo dimentichi che vai a chiudere lo sportello e che ti lo sportello, capito? No, no, io faccio come tutto, ci metto il mio adesivo, lo metto, me l'ho pressato, lo tengo, così almeno attacca bene, tanto ho già appurato dove metterlo, perché c'è lo spazio, c'è lo spazio dove non disturba. O lo metto tra il primo piano e il piano del computer lì, che ci sta tranquillamente, oppure forse anche più giù, che così almeno non disturba anche dove c'è l'apparecchio. Sì, con gli adesivi non c'è un problema, è anche un lavoro pulito, tranquillo, ci fa. Però ripeto, prima di appendere il microfono lascialo un giorno attaccato in porta microfono, e poi vedrai che quando appendi il microfono non si sa capire. E lei non vuole attaccarlo, ha detto che rovina il mobile, non vuole attaccarlo, se devo fare, mi tocca fare la guerra. Liliana fa la palla, dillo che te l'ho detto io. Aspetta, attaccami nel fronte, lì con il portale grosso. Così. Bumbo. Altre immaginaci che si vede. Cioè, dopo il mobile mio, sai che se che mi ha fregato il posto delle cuffie, ma ecco, le cuffie ci mette il suo computer. E poi era tutto giusto, ci stava tutto giusto, le cuffie sotto nell'ultimo ripiano, ci stavano le cuffie, e la borsa del mio computer, perché il computer lo lascio senza borsa, c'è nel cassettino, tiro fuori, apro e accendo direttamente, la borsa l'ho messa sotto. Beh, si è preso la parte dove c'erano le cuffie e si è messo il suo computer, dice dai dammelo uno spazio e dai dammelo, alla fine c'è riuscito. Adesso farò un po' perché ho preso un'altra spazzata ancora e così via, poi se non vedi tutto lì e lo facciamo un altro. E vai, ci sto poco, ci metto uno strumento lì, lo vedo cambio. Già, se ci vedi che ci mettiamo la strada tua, ci vedi che chiudi la chiave, così tu la metti in tasca la chiave. Mettiamo la serratura e buonanotte. E così va bene. Ovvero, speriamo che arrivi una fetta questa manopole, perché mi stanno facendo i dolori alle vita, per riaprire così. Ehi, Ulia, ci sta tanto tempo per provare a aspettare. Vabbè, ascolta, fa una cosa tua, perché ha prodotto il papà prima degli altri, perché lì che non l'ha voluto e come lì. Ci ha telefonato per vedere perché doveva spedirle, voleva sapere se voleva quelle dei cassetti piccoli o quelle dei cassetti grandi. No, gli ha detto quelle piccole, le più piccole. Ma no, vabbè, non c'è problema, così di telefono non dico spedire quello, perché mi hanno telefonato dall'azienda, mi hanno detto se volevo le piccole e le grandi, quindi si stanno interessando. Sì, se hanno telefonato è chiaro, sì, no, quelle piccole vanno bene, sì, no, non c'è bisogno quella grande, no, quelle piccoline, quelle da comodino, diciamo, vai. Quelli che ci sono anche dei cassettini che ti abbiamo adattato, quelli che sono. In questo va bene, va benissimo questo. Perché garage ce l'ho fermo perché a modulare col garage non fa perché ha il microfono normale adesso. Con l'eco esce bene, però se lo tengo appena appena staccato dalla bocca giù non mi sente più nessuno, lo devo tenere, me lo devo mangiare il microfono. Proprio sì, è ben chiaro, il microfono normale così lo devo tenere 5 cm dalla bocca, è ovvio, no? Non è come la amplificata, l'amplificata te lo metti a 50 cm e ci parli, ma con il microfono normale anche se c'è l'eco e anche se è molto bella la modulazione, però lo devi sempre avvicinare alla bocca. Massimiliano ci ha messo il filmato su Facebook. E ci sentiamo noi praticamente mentre parliamo e poi se no ci sentiamo un po' tutti Claudio, io eccetera eccetera, è una bella iniziativa, perché ha filmato la radio sua e tutta la prestatura che c'ha, roba di ammalarancia per lui. Beh, ovviamente non so se è un radioamatore, sicuramente è molto completa, non ci sono dubbi. Ah sì, e il sito com'è? Sito? No, non c'è sito, no, deve avere l'amicizia di Massimiliano, devi sapere nome e cognome praticamente, se no non riesci a vederlo, capito? Se non sai nome e cognome devi cercare nel suo Facebook. Nome e cognome, se tu sei nome e cognome cerchi lì e vedi il filmato. Ah, ho capito. E vabbè, cognome io non lo so. Va bene. Ci informeremo da lui. Fammi dare il cognome, così almeno dici tutto quello e vediamo un po' quello che viene fuori. A proposito, stasera non si è sentito per niente, ma si media. La bestia che c'è, odia. Oh, sì, non ho sentito nulla. Ma io le auguro solamente che sia l'unica soddisfazione della sua vita, e basta. Ognuno toglie fuori ciò che ha dentro, non è un preso. Sì, sarà bardo. Vabbè, chissà chi è questo di succede. Paga. Ti stavo dicendo, mi fa molto piacere che stanno entrando Massimiliano, Marco Scorpio, ogni tanto entra Walter. Questo mi fa veramente piacere perché fanno capire che hanno ancora la passione della 27, anche se sono radioamatori, hanno passato diciamo di un grado la 27 e hanno ancora il cuore lì perché loro praticamente tutti hanno iniziato così con la 27, ma vedi Walter è sempre entrato, dico la verità, però tanti altri, anche Massimiliano qualche volta entrava, ma non così spesso, sta entrando più spesso. Sì, no, ma anche io sono contento, anzi contentissimo. E questo è un discorso che io ho fatto già tempo fa. Appunto, mi ero lamentato per quale motivo i radioamatori patentati non si degnano di entrare nelle 27 dal momento che anche loro sono nati con la 27. E dunque, che poi tra l'altro a confronto, devo dire, e lo dico con tanta chiarezza, io ascolto sempre il discorso degli amatori eccetera eccetera, ma guarda, non c'è niente di diverso da come parliamo noi, guarda, anche se loro dovrebbero parlare di cose tecniche eccetera eccetera, ma raramente, guarda, parlano di passi fagioli come possiamo parlare noi, guarda. Siamo diversi tipi di discorso, no? Abbiamo parlato di antenne, abbiamo parlato anche l'altro giorno, di antenne, di apparati, di un po' di tutto. Solo che se dobbiamo parlare di pesca, parliamo di pesca, ecco cosa c'è. Io mi sento più libero qua di esprimere. Per me, quelle persone che non entrano in 27, essendo anche se sono radioamatori, per me sono presunzione. Io ho la presunzione. chiama la radio e ti trasmette, anzi addirittura ti ascolta anche. È stato un grande amatore, una volta su un il concerto. E cioè non è vero la ragione per cui loro non devono entrare. Non sono assolutamente superiori, tu non puoi fare la notizia. Ma io sentivo l'Olimpia Nazionale, c'è gente che fa le pernacchie, gente che dice le parolacce, ma sentivo tutti i colori, sembrava, guarda, diciamo la 27 degli anni 90. Poi tutto questo che faceva anche lì con questa ripetizione di sigle continue a ogni schiacciata importante, è una cosa addirittura io mi ero detto anche lo dico un atteggiamento del genere, figurati. E diciamo che il loro modo di modulare quello lì ma posso anche rispettarlo, non c'è problema, però io ho sentito dire da un radioamatore per dire io non entro il 27 perché se dovessi entrare il 27 mollerei subito la radio radioamatoriale perché a me mi piace di più il 27, ma è perché ha detto sì perché poi non riesco a capire una cosa io, per quale motivo loro non entrano in 27, che cosa ci prendono? Non è che ci prendono gli anelli nel centro del 27, è una frequenza come tanto. E dunque non vedo la ragione perché loro debbano rinnegare la 27, è come rinnegare il padre, perché o la madre, se è nato da tuo padre e da tua madre, tu non lo puoi rinnegare. E così è lo stesso discorso come paragone, un po' pesato, magari, però il paragone è quello che si può fare. Se è nato il 27 io non riesco a capire perché loro, per quello motivo loro la rinnegano da quella frequenza. È come il dottore che magari figlio di operai, rinnega il padre perché è un operaio. Sei campato nel mio mestiere, poi sei diventato dottore, sono contento e fiero di te, però devi anche rispettare, diciamo, l'operaio. Beh, lo credo. Devo dire che l'operaio, con tutte le sue sofferenze, ha sicuramente anche molta più dignità di tante altre classi sociali. Dunque, non è questo il punto. Perciò, ma che se ne frega, non ci vogliono entrare, non c'entrano. Noi stiamo bene dove siamo. Vabbè, probabilmente è dato anche dal modo di comportarsi. Io ho notato che le persone serie, diciamo, nella banda radioamatoriale si comportano molto educatamente, eccetera, eccetera. Ce ne sono anche che sono stravaganti. Non dimenticherò mai, e l'ho detto anche a Massimiliano, il giorno che è entrato questo qui ha detto di essere nuovo, ha detto nominativo, qui ha detto sono nuovo, eccetera, eccetera, vuole un controllo. In maniera avesse chiesto, questo qui gli ha detto non ti permettete di chiedere controlli se li dobbiamo dare li diamo noi. Qui non si chiedono controlli, ha seccato, quello non ha più risposto. Quello è un cretino e basta. Quella persona che ha risposto in quel modo, sono un cretino. Guarda, anzi devo dire che è una domanda molto ma molto lecita, soprattutto fra i tuoi amatori. Vedi, e ti spiego il perché. Fra di noi qui in banda cittadina sappiamo più o meno come si arriva e come usciamo tutti quanti, più o meno siamo informati. Io sono informato di te, come dici tu, tu sei informato di come esco io. Mentre invece un animatore può essere dall'altra parte della terra che non ha mai sentito addirittura. È chiaro che ti chiede un controllo perché devo valutare la validità della realizzazione. Ripeto, quello che ha risposto in quel modo è un deficiente, guarda. Scherzo subito sull'Inca Nazionale, ma tu l'Inca Nazionale lo ascolti ancora e non riesco più a ascoltare. Ma sinceramente quest'ultimo periodo non l'ho più ascoltata nemmeno io, non lo so se ci sia ancora, ma suppongo che ci sia ancora, perché no? Ascoltavo sempre prima, mi era molto simpatico quello di Ossini, non mi ricordo come si chiama Gianfranco mi pare. E questo qui è un contadino, lavora la terra ed è radioamatore, però che fare di suo, sa come tu costruito un alimentatore, perché ne ha parlato, eccetera, eccetera. Ed è una persona veramente, guarda, è da ammirare. Lui è così esplicito, parlando, così tranquillo, parlando del suo lavoro, si vede che lo ama proprio il suo lavoro. Un giorno ha detto che praticamente è finito di lavorare, ah, mi sono piantato questo, mi sono piantato l'altro. Poi ha detto, finito di lavorare, dovevo andare a comprarmi il pane, sono andato vestito come ero, tutti che mi guardavano, ma chi se ne frega, dice, io cammino a testa alta, il mio lavoro io lo amo, sono andato a comprarmi il pane, tutti mi guardavano in piazza, quando passavo come dice, guarda quello lì vestito tutto male, e se ne sono andato a comprare il pane. Guarda che una persona che è vestita così da lavoro, almeno sotto l'aspetto del valore umano, ne ha sicuramente più di uno che veste sempre in cravatta, te lo posso garantire. Perché? Ti spiego perché. Perché il lavoratore è una di quelle persone che mantiene il mondo in piedi, a differenza di quelli che invece non fanno niente dalla mattina alla sera, come certi diplomatici, o certi impiegati, o certi dottori, o certi ingegneri, eccetera, eccetera. Te lo posso garantire che è così. Solo che l'italiano ha una mentalità contorta, perché anziché valutare effettivamente come si deve le classi sociali, no, svaluta la classe operaia, ripeto che è quello che deve mangiare a tutti, e magari così, diciamo, mette sull'altare queste persone che non fanno niente dalla mattina alla sera. Questa gente non ha capito che se vivono a casa lo devono gli operai che hanno lavorato. E non credo. Io dico solo questo, guarda. Sempre, e questo l'ho sempre detto e lo dico sempre. Ad esempio prendiamo un tecnico che va in un cantiere, quello non ci sa nemmeno camminare dentro il cantiere, mentre invece l'operaio ti sa costruire il palazzo da solo, anche senza da posto il progetto del stesso, perché se un operaio bravo si sa fare il lavoro senza bisogno del tecnico. Che rubrica, anzi, lo correggi pure certe cose. Io ho sentito muratori parlando col giovane tra, ma giovane, se fa così secondo me è meglio, perché e gli spiegano la situazione, capito? Ma se ti sto dicendo che i tecnici saranno bravi a tavolino, facendo i disegni, facendo i progetti, questo sicuramente lo sanno fare, alle volte irrealizzabili però, perché ci sono delle cose che non si possono realizzare, e a me mi è successo tante volte, però quando vanno in officina o in falegnameria o in un cantiere lide, non ci stanno a camminarvi, te lo posso garantire. Ci spiego una cosa, un giorno mi ha chiamato a me uno, un trasportatore molto noto qui a Sassari, e mi avevo fatto fare dei pareti in legno tramite l'architetto. Questo mi ha portato una lampadina, mi ha portato, ma mi deve fare questi pareti così, il legno sono dabili, eccetera, eccetera. Quando la lampadina arriva in fondo vuol dire che è arrivata al punto alto, guarda che la lampadina sino in fondo sul legno non si può mettere, perché si accende. Lei ascolta, faccia come ho detto io, come so io quello che fa, ah vabbè, se lei è così bravo, io faccio così, gli riporto, vale il tricista di piazza i pareti. Meno male che c'era la donna, la collaboratrice domestica, se non gli si incendiava la casa. Allora mi ha telefonato questa persona, Giulio, che cosa mai... Allora c'avevo il telefono vicino io, no? Mi ha telefonato, cosa hai combinato? Non aspetti che glielo dico io, cosa ha combinato il suo architetto. E gli ho spiegato il fatto, così come va davvero. E allora, basta gli ho detto che la lampadina bruciava il legno, e lui invece, però che butti che fare, fa, dice, va bene, come dicevo io. Non ne comprenderei nulla, loro dicono, a parole spostano il mondo. Sì, te l'ho detto, sulla carta sono brave, fanno i disegni, fanno i progetti, eccetera, eccetera. Però poi, ripeto, tante volte progettano e non si possono nemmeno realizzare le cose. Capito? Ci vuole sempre il consiglio tecnico vero, è quello dell'operaio, che è lui che è in grado di fare il lavoro, non stato non te che mi contenti, ma sono sortito e basta. Io sono pagato per arredare, per fare, no? Sono consigliato come mettere un mobile, magari invece che metterlo a destra, metterlo a sinistra, mettere il divano spostato da una parte invece che dall'altra, ma non posso dire fai così a una persona che ha l'esperienza. Appunto, e poi mi hanno mostrato in tantissime circostanze che in quante case cadono giù, fatte così con i calcoli del corso, invece case che si hanno costruite abusivamente gli operai, quindi non crollano mai, chissà perché, perché non hanno chiamato mai il tecnico. Perché quando costruiscono loro, costruiscono con tutti i riguardi, specialmente se sono per loro, non male. Ci mettono una attrezzatura buona, anche perché i muratori magari da un cantiere e dall'altro buscano il materiale e si fanno tutto gratis pure. Perché sanno come si deve lavorare, sanno le dosi, sanno tutto, sanno la quantità di ferro, la sezione del ferro, tutto sanno, a differenza del tecnico che ti fa i calcoli, alle volte questi calcoli sono sbagliati, fanno fare il lavoro e con la solaio, una volta mi è successo e continuerà a succedere. Lui una volta mi ricordo che questo amico stava facendo la casa in campagna e la parte di sopra era già abitata, stava facendo la parte di sotto e la cantina che era già il vino nelle butti. E mi stava facendo vedere la parte di sotto che stava facendo, mi detto qua ci devo fare la sala per farci una specie di officina, mi metto tutte le attrezzature che possono servire per aiutarmi il trattore, per aiutarmi la macchina quando ne ho bisogno e cose. Ho visto che mancava, c'era una pignata, perché era inglese ancora, c'era questa pignata che mancava. Non vedo la pignata, ci scendo giù con la gamba, ho sbattuto il codice, mi sono fatto le codice e sono svenuto. No, ma succede così. Io dico questo, ogni tipo di lavoro, secondo me, deve essere bravo, un dono di natura. È come un artista nuovo, un cantante, un bravo attore, un bravo pittore, eccetera, eccetera. Dunque, se quello è il dono di natura per fare una determinata professione, quello è bravo, a differenza di quello che lo vuole fare senza magari solo perché ha studiato. Hai studiato, sì, sarà esperto in che senso, ma solo quando sei seduto sulla scrivania, ma non ti alzare, no, e non parlare, perché tu non capisci niente. Io ti lascio la teoria a uno che la manualità facendo le cose diverse, ci vuole manualità e queste cose si acquistano facendo lavoro da tanti anni e acquistano esperienza anche sbagliando, perché no? Sbagliando si impara, diceva quello. Non credo, la pratica è più sicura della grammatica, questo te lo posso garantire, non ci sono dubbi. Io non capisco per quale motivo. Allora vengono i tecnici e chiedono questo che legno è, se tu sei un tecnico che fai queste cose, che fa parte del tuo lavoro, dovresti anche conoscere i materiali. Io invece non ne conosco nemmeno i materiali, ma non lo dite di niente. Cosa vuoi fare? Sembra non saputo, tante volte dopo ne nuda. Io per fare un lavoro mi affido sempre a degli operai che sanno fare il suo lavoro, certo non mi metto a cercare ingegneri e cose di lavori, ti faccio di bagno la bacca di linea per fare tutto tipo di arredamento e poi l'arredamento me lo studio io, come piace a me, me lo muovo come ti piace a me, non è che me lo fanno in casa mia, devo vedere gli altri che cosa fare. Boh, io ho i miei gusti, io gente che chiama questi ingegneri, arredatori, eccetera, eccetera, mi fa pensare che non c'ha idee. Beh certo, sì, ma è il loro progetto, lo fanno e poi alla fine sbagliano anche molto, molto, molto, o perché vogliono risparmiare parliamo di azienda. Ad esempio, io mi ricordo quando avevo fatto la portata di rapporto, avevo comprato una camera a vetro stile veneziano. Ha aperto tutti gli strutturi dell'armadio e gli si è rovesciata addosso l'armadio, basta. E gli è caduto sul letto. Mi è caduto, se che ti puoi immaginare la struttura dell'armadio era più leggera degli sportivi, dimmi tu se si può fare una cosa del genere, ma cosa dobbiamo fare? L'armadio lo dobbiamo trasformare al muro forse, io pure ho potuto di no. Allucinante, nella piomba fino avanti era proprio allucinante. Io già l'ho fatto con la libreria, con la stretta, però tassellata per avere maggior sicurezza, perché se devo mettere i libri era una libreria, quella che tu hai visto, non so se ci hai fatto caso, nella cameretta. Quella l'ho tassellata, poi i tasselli li ho tutti pitturati come la camera, non si vede nulla. No, per essere un lavoro ben fatto deve rimanere in piedi da solo, se c'è un mobile non lo devi saltellare, questo non è un quadro o che so io una specchiera di comò che deve mettere un gancio per appenderla, il mobile deve rimanere in piedi da solo. Se vuole ricordati, una buona base è un buon schienale, e quando la base è buona e quando lo schienale è ultimo non farà mai difetti, nemmeno gli sportivi non faranno mai difetti, mai. Se invece è leggero lo schienale, oppure la base è leggera, senza tutto che non riuscirai mai a sistemare bene gli sportivi, perché dopo un po' di tempo, quando li sistemati, sarai di nuovo sempre al punto di partenza. Bisogna sempre stare lo suo livello, perché succede, specialmente in quelli di cucina succede. Quelli di cucina succede soprattutto perché gli sportivi sono in personale. Quindi siccome si aprono molto, si aprono tutti i giorni e abbastanza, diciamo, tanta gente non fa nemmeno attenzione, essendo il personale, quello si sbava, ma quando ci sono le vittime, le cimiere, il succede a scatto, ed ecco che gli sportivi non incominciano a cedere. È così. Ad esempio, adesso senza andare a criticare niente, visto la cameretta tua qua di Rodi, dopo un messo di piano all'angolo, ma ci sembra che devi mettere un di piano che ne cade dopo poco tempo, ma dai. E poi tra l'altro gli ho registrato anche un paio di fottili, e di perché una camera nuova, questi difetti non li deve fare. Quella è una camera comprata da P2, non è che sia una camera di chi si fida da chi si brilli. L'ho pagata anche una barca di soldi per la camera. Mi pare che mi è venuta 12 milioni, una cosa del genere. E appunto, lo so. Ma è così, i mobili di questo sono così, non c'è niente da fare. Sono fatti così in fabbrica, e allora c'è sempre un risparmio perché l'industria deve guadagnare. Se l'azienda l'ha venduta a 12 milioni, a te non l'avrà pagata se hanno 2 milioni, hai capito com'è la storia? Perché io mi ricordo quando c'era quello dei mobili accanto a me, no? Dove c'è Davide adesso, c'era l'esposizione, no? di Luigi, quello che c'era di fronte. E quando di fatto mi portava qualcosa da riparare, perché sono muovendo gli standard per cambiare esposizione, gli si rompevano i mobili. Un giorno gli ho detto, ma perché non compri un mobile più duro? Ma non vedi che questa porcheria? Perché questo anche aveva visto, mi incollami un piede e stringimi queste zitti, e tutti i lavori che poi non gli prendevo mai niente. E allora un giorno mi sono permesso e ho detto, perché non compri un mobile migliore? Ma lo sa che io sono commerciante, dice, ma non vedi questo comune? Questo comune io ce lo pago un fabbrico di 150 euro, e me lo vendo un 1.300, 1.400 euro. Ecco qual è il discorso. Quello mobili italiani, quello lì era. Quello che c'era fianco a me, lui che c'era fianco a me, dove c'è Davide? C'era un'esposizione prima di mobili, no? E io, il negozio era di fronte, ti ricordo? Sì, dove c'era prima la pizzeria. Sì, ma lo studio sono un po' così, dai, capito, diciamo che per in questo campo qua. Campo qua. È abbastanza serio, vende roba buona, non è a livello di ciucciolare. Io cucina ciucciolare non ne ho, sposto di ciucciolare non ne ho perché lui è legno, non è ciucciolare quella cucina. Sì, ma intanto nei cassetti ci vogliono le ruote, primo. Perché sono finiti i tempi di fare i cassetti così, come con le guide di legno. Io, ecco, l'anno scorso, prima di Natale, avevo fatto una libreria di un cicchiere in fondo, e questa avevo comprato il numero da appeglio. Il comune ho dovuto aiutare, perché? Perché c'erano tutti i cassetti, quattro cassetti, tutti quattro scollati. Mi sono dovuto portare i moschetti lì, per non stare a portarmi i cassetti in bottega, già dal momento che ci stavo lavorando lì. Moschetti e collati, li ho collati lì sul posto, ed erano mobili nuovi, ce l'avevo appena un paio di mesi. Ma comunque era anche supporto di fare gli ambiti a più, perché io ho avuto dei problemi, mi ha mandato immediatamente i suoi operai, mi hanno aiutato subito tutto, perché anche quella della cameretta, se avessi chiamato me l'avrebbe mandato lo stesso, ma visto che c'eri tu, l'ho chiesto a te. A me è successo invece in cucina che mi è uscito il foglio che c'è sotto al cassetto, si staccava dal peso delle bossate e roba del genere, si staccava quello lì. Sì, ma certo. No, ma è così, io per dire, appunto non è che li fa lui i mobili li fa arrivare a fuori, dunque sono sempre fatti in fabbrica, capito? Magari lui sceglie quelli migliori, e se non li fa sedia, perché appunto in realtà non li fa sedia, si fa arrivare i mobili tra i migliori, però poi alla fine sono sempre i mobili fatti in sedia, capito? Ad esempio la cameretta tua, tornando al discorso della cameretta tua, lo schienale all'angolo, se tu lo spingi si apre, lo schienale è importantissimo nei mobili, perché ripeto, lo schienale è importante soprattutto per gli sottili, perché col tempo i legni si imbarcano, e se lo schienale non è rigido, sta tranquillo che gli sottili faranno sempre difetto. Diciamo che la roba artigianale è stata sempre diversa da quella fatta in fabbrica. È normale, è come comprare il formaggio dal pastore e comprarlo nel supermercato, è quella lì la differenza. Beh certo, il problema è questo, prendiamo noi quella porcheria che vedono lì da Conforlana. L'ultima immagine fatta gente viene da me a portarmi delle cose per riparare, ma cosa che pare sono tutti i ciuffolari, è una vergogna, né, per comprare. Allora un giorno vi ho detto, perché non comprare mobili nuovi anziché comprare queste cose qua, fate intandomi, costano poco, me le fanno pagare a 20, 30 euro al mese, me le fanno pagare con la finanziaria, non me le frega niente, quando si rompe vado me le compro un altro, infatti me le danno 20, 30 euro al mese. Ma tu c'è di me se si può ragionare in questo modo. Sì, ma chi poco spende più spende, diceva quello. Io preferisco fare la spesa una volta, fa bene. E non darti problemi. Comunque a Pedro c'è anche dei pezzi unici, perché praticamente io la sala che ho preso, se voglio prendere un pezzo che voglio unire un altro pezzo, tipo cosa ti posso dire, il tavolino del telefono, cosa ti posso dire, qualche altra cosa, il mobiletto, eccetera, eccetera, ti danno il pezzo proprio di quella sala lì. Quelli lì erano proprio pezzi, quella lì costa una macchina di subito lo stesso, quella sala, costa quanto una macchina. Lo so, in effetti la sala come qualità di mobile è sicuramente superiore sia alla camera che alla cameretta, questo te lo posso garantire. Il capo quella costa, mi pare che costava 21.000 euro quella lì. E comunque io i primi mobili che ho avuto non erano, dico la verità, non erano il massimo. Li ho presi come si usavano laccati, la sala era nera, bellina, perché c'erano le vetrate illuminate, tutte queste cose qua. Però erano mobili neri e fai conto, l'ho cambiata, quella lì l'ho regalata a una associazione praticamente che cura i tossicodipendenti, tipo, cosa ti posso dire, quella della Cruca, roba del genere, che servono queste camere qui, servono per ospitare appunto chi ha bisogno di fare comunità, ecco. E questa cosa ce l'ha proposta Pido. Ah, praticamente ti manda, sono proprio loro che vengono, e tra l'altro mi ha fatto piacere perché ho visto, è venuto un amico che allora quando abitava vicino a casa era una persona tranquilla, però ho saputo che era diventato tossico e cose del genere, mi è dispiaciuto molto. E adesso si è ripreso, addirittura lui fa le ramanzine agli altri, mi ha visto con la sigaretta, quando ancora fumava, mi ha detto che era una droga anche quella, che questa e quell'altra, io mi ha detto cavolo, mi sta facendo la ramanzina a me come tutti i drogati prima. E perché non sai che è così? E lui dice così, fondatelo. È così, lo sappiamo. E vabbè, cosa ci vuoi fare? Però, se non altro, ha avuto l'intelligenza di uscire da quel fatto lì, almeno quello è stato altro. Poi il fatto che lui vada a criticare, si sa, la lingua è molto molto lunga, e allora solo che uno per criticare si dovrebbe guardare allo specchio e guardare dentro di sé se è in grado di criticare o meno. Io con la testa mia ce l'ho fatta smettere, beh, lo sto più fumando già, lo dico orgogliosamente, già quasi 2 anni che non fumo più. Oddio, un chilo, una cosa, ma non proprio fumare 15-20 sigarette come facevo prima. Non è che non ne abbia più toccato totalmente, ma un chilo di sigaretta me lo sono fatto, però poi ho detto basta, non ne tocco più. Però sono da tanto che non fumo pacchetti come fumavo prima, una sigaretta, 2 sigarette, niente. Una volta solo quando era a pesca mi è venuto voglia di fumare, perché Giuseppe stava fumando, ho detto Giuseppe fammi fare 2 chili, affannato. E me li sono fatti, però niente di più, non li ho più toccati. E per dire, l'ho fatto da solo, non è che nessuno mi abbia inculcato, fatto niente. Ho deciso da solo, ho deciso così e basta, appunto, smesso. Ti dico, per 1 anno e mezzo così non li ho più toccato completamente, manco un tiro, da poco così ho fatto un tiro, vabbè, ho fatto anche male, ma il vizio tanto non ce l'ho più, non ne sto più toccando, non me ne sto più comprando né nulla, quindi. E lui so che è stato anche in comunità per guarire e adesso è istruttore addirittura, fa dei convegni con i tossicodipendenti, cerca di prenderli in una maniera giusta, perché lui c'ha anche questo tipo di esperienza, capito? Io una volta in chiesa è venuto questo tossicodipendente, hanno fatto parlare l'altoparlante, come finita la messa, come finita la messa parla tu, perché io sono un ex tossicodipendente, sto lavorando per curare altri come lui, io gli do un certo tipo di educazione, gli insegno lavoro, gli cerco di portarli sulla buona strada, ecco. Per questo vi chiedo, metterò all'uscita, chi gradisse aiutarci, eccetera, eccetera, può dare un'offerta. Senza che io vi chieda niente, sapete che io sono lì, chi lo vuole dare lo fa, chi non può, non vuole, non lo fa, non c'è problema. Però vi voglio far sapere che io ho smesso e sto aiutando gli altri. E questo è già un atteggiamento intelligente, perché lui si è reso conto evidentemente che ha sbagliato e adesso ognuno si sente forse in colpa, allora vuole dare una mano a chi ne ha necessità. Capito? No, io non ho mai fumato, non ho mai bevuto, dunque, anche perché prima di tutto non mi è mai piaciuto. sotto quell'aspetto mi ritengo sopporto di gente, perché io da solo non mi faccio del male, a differenza di chi magari ha potuto fumare, non me ne frega niente, perché uno naturalmente può fare quello che vuole, però per dirlo, intanto io ho fatto tanti anni di sport e sarebbe stato anche un controsenso che se io avessi fumato eccetera eccetera. Perché ti puoi immaginare se io, no, nella maniera più assoluta, la salute conta molto, guarda, senza andare molto lontano, adesso ultimamente che sono stato in ospedale ti posso garantire che il dottore mi ha detto anche a lui, mi ha aiutato molto il fatto che non ho mai fumato, mai bevuto, perché ti chiedono in ospedale quando ti devono curare eccetera, ti chiedono che vizi hai, se hai fumato, se non hai fumato, se hai bevuto, oppure se sei stato ricoverato altre volte, se hai avuto malattie, insomma ti chiedono per il tutto, ti chiedono, addirittura ti chiedono anche qualcosa dei familiari, capito? E loro poi collegano tutto e sanno come comportarsi. No, dicevano, ma io con lì facciamo in fretta a compilare il muro qua, perché mettiamo solo delle virgolette in quanto non dovrebbe scrivere niente, perché è tutto negativo, capito? Beh, poi me l'hanno chiesto anche quando mi hanno operato, sì. Mi hanno fatto parlare prima con il rianimatore, e mi ha praticamente fatto fare una scheda dove c'era scritto tutta questa cosa, se fumavo, se non fumavo, che malattie avevo avuto, tutte queste storie qua. Sì, beh certo, non ti chiedono, perché poi devono valutare in che modo si deve comportare il medico per curarti, capito? Chiedono tutto. Ripeto, non solamente di te, ma chiedono anche dei tuoi genitori. Perché magari alle volte dicono hai avuto qualche genitore ammalato, a seconda di cosa uno può essere anche un fatto genetico eccetera eccetera, però per quello che se si informano vogliono sapere tutto. Quando prima di operare meglio chi? Cioè sia l'anestesista che l'animatore, tutti e due che facevano queste domande qua, perché lui ha detto ci dobbiamo sincerare che lì possa resistere all'anestesia eccetera eccetera, quindi gli poniamo queste domande qua all'inizio, ma io mi sono seduto da una parte, loro erano dall'altra, mi facevano le domande, io rispondevo e loro scrivevano. Poi una volta che hanno fatto il testo, beh adesso siamo pronti, possiamo procedere. Quando metto così mi si mette un truzzudo. No, invece è importante che loro sappiano tutto quanto di te e anche della famiglia a riguardo di malattie eccetera, è meglio che sappiano tutto, perché in quel caso lì può essere importante anche agli effetti della terapia, capito? E loro infatti chiedono proprio il motivo lì, perché devono sapere, perché ognuno di noi ha un fisico diverso da un altro e dunque loro si vedono anche su quello. L'esperienza insegna che loro sono in grado di curarti meglio se sanno tutto di te, del tuo fisico, di quello che hai avuto, di quello che hanno avuto anche i tuoi familiari, che potessi avere la stessa genesi, anzi ha la stessa genesi, ma potessi avere lo stesso problema, capito? Beh, certamente sì. La più brutta operazione che ho subito è quando mi hanno operato al ginocchio, il menisco e i legamenti. Quella è stata l'operazione più brutta perché mi hanno fatto l'anestesia lombare. Quella la temevo davvero. L'anestesia lombare, sapevo già che me la dovevano fare perché io ero andato sul computer e molto intelligentemente mi sono guardato tutta l'operazione, quello che facevo, non sapevo già tutto. Beh sì, quando ho operato a Antonello, già lo conosco, a ginocchio, no, è andato molto ma molto bene, in brevissimo tempo l'hanno dimesso perché aveva, come si chiama qua? No, adesso non mi viene, quella è una malattia che a volte viene anche ai giocatori di calcio, insomma agli atleti, non mi ricordo come si chiama. Cosmaruto mi pare. No, l'altro. menisco. E poi abbiamo fatto un'artroscopia, no? Hanno fatto un foro, dice, hanno... però il fatto che abbiamo fatto una puntura lombare non me ne ha parlato, non lo so, non credo che lo facciano tutti. Però a me mi ha fatto la lombare, praticamente ti mobilizza gli arti, non ti senti più la gamba. Mi hanno praticamente fatto vedere l'operazione, perché io ero sveglio, mi hanno fatto vedere l'operazione, magari ci fosse un'infermiera che mi teneva la mano e che parlava con me, eccetera, eccetera, mi sorrideva, cercava di distrarmi. Io seguivo l'operazione perché si presentava tutto in un monitor che io avevo di fronte, quindi lo vedevo. E vedevo tutto quello che mi stavano facendo. L'hanno fatto anche a me così, come Antonello, gli hanno fatto il buco, però da questo buco hanno fatto passare uno scalpello e un martello. Quando stavano facendo quello mi hanno messo un lenzuolo per non vedere, e lì mi sono sentito male, mi stavo venendo da svenire perché non vedevo più quello che mi stavano facendo e ho avuto paura, e dalla paura stavo svenendo. Infatti l'infermiera se ne è accorta e ha chiamato subito l'anestesista. Lì, cavolo, ho sentito il colpo di martello, tum, tum, tum. E poi gliel'ho chiesto al dottore, dopo che era stata fatta l'operazione, che sono andato a medicarmi, eccetera, eccetera, che sono ritornato. Mi ha detto che praticamente buca, non lo so, perché pieno di sangue pesto, per farlo fuoriuscire. Ho capito, figurati. E vabbè, cioè, ci vuole anche fortuna e trovare il dottore bravo anche, perché per quanto ne so io qui come ortopedici, almeno a Sassari non è che ce ne sono tanti bravi. No, invece sai a Fonello cosa gli è successo? Gli è successo che per fare la risonanza magnetica è dovuto andare a Roma, è dovuto andare. Il motivo perché è andato a Roma, te lo spiego subito, perché nella macchina lui non ci passa, aveva l'appuntamento a Platamona, no, per fare la risonanza magnetica, e lui essendo un uomo abbastanza grosso non è entrato nella macchina e dunque ha dovuto prenotare a Roma, ha telefonato a un ferrare che è l'unico ferrare che ha questo tipo di macchina grande dove ci può stare anche lui, capito? E dunque ha avuto anche delle spese, andare a Roma, fare la visita per gli aziosi, eccetera, eccetera, eccetera, e per gli aziosi, alla schiena, anche lui ha un problema che io ho la schiena, e allora ha avuto bisogno di questa visita, però non ha potuto farla risolvere, è dovuto per forza andare a Roma. E io poi ci ho messo un po' di più perché c'avevo anche i legamenti che si dovevano risanare, ci ho messo un po' di più per la riabilitazione, ho dovuto fare fisioterapia, un sacco di cose per riabilitare perché avevo i legamenti due praticamente che erano quasi staccati, uno staccato, che hanno dovuto riallacciare. E quindi muovere la gamba per me era più difficile che di uno che operano di menisco, così che operano di menisco, il menisco non è altro che una spugna che praticamente fa l'ammortizzatore tra uno e l'altro, capito? Sì, infatti lui è stato dimesso subito dopo pochi giorni proprio e stava già camminando quasi normale, sì un pochino lo peccato, però ma dopo pochi giorni camminava proprio bene, come se deve camminare insomma, ecco. L'operazione quanti giorni c'è stato l'operazione? 2 giorni, mi sembra 3 giorni, non di più. L'hanno dimesso e lui quando è stato dimesso già camminava anche se un po' soffocando, però camminava, capito? Non ha nemmeno sofferto più di tanto, proprio per niente. Dopo pochi giorni ha camminato proprio bene e anche in maniera molto spedita, capito? Non ha avuto nessun problema, evidentemente era tanto un'operazione semplice e poi ha trovato sicuramente molto pedico bravo. A me l'hanno fatto da Alghero, me l'hanno fatto in ospedale addirittura, però non camminavo proprio, quando sono sceso dal letto non camminavo, avevo bisogno delle stampelle. Sì, vabbè, sono tutti diversi di operazione. Quando sono un menisco quella è una fesseria, ma gli legamenti non sono una fesseria, perché la gamba, quando io sono caduto, mi andava come una marcia sboccolata, ce l'ho presente, come una marcia sboccolata che si stacca la farfalla sotto il cambio, che poi gira tutta quanta su se stessa, non c'aveva controllo la gamba. Già l'avevo avuto anch'io un incidente al ginocchio, giocando a pallone quando ero ragazzo, sono stato un sacco di tempo rotto proprio, e poi tra l'altro ho dovuto anche rimettere, e proprio per quale motivo l'ho passata la tecnica leggera, e proprio perché sono andato una palestra per curarmi il ginocchio, perché avevo bisogno di un certo tipo di massaggi, e a me poi c'era una persona competente, da vita, e poi ho cambiato sport addirittura, tipo io mi ero rovinato il ginocchio lì, in giocata a pallone, proprio dove c'erano sono stati dei tiri, proprio lì, perché il peso del piede non mi ha girato, il peso del corpo mi ha girato nel ginocchio. Sono stato più di un anno dopo, ti puoi immaginare, ma poi col tempo ti ha guarito bene, senza nessuna operazione, niente. Se di fronte a noi, dove io faccio il servizio ambulanza, o per meglio dire facevo perché sto andando poco adesso. E qui giocano a calcio molto spesso, sai cosa ne facciamo lì, questi interventi qua? Il piede che gli gira sul pallone, si rompe un malleolo, si rompe un menisco, lui tira una volta. Il pallone è uno sport un po' pericoloso, almeno per le gambe, soprattutto per le gambe, anche per le spalle, uno cade, si rompe la clavicola, insomma, già è successo tante volte, infatti anche qualche giocatore del calcio ha dovuto anche smettere di giocare, intanto per fare un non a caso, casi rari, tutte le volte che cadeva gli si spostava la clavicola che usciva dall'incasso, capito? Allora ha dovuto smettere. E vabbè, sono cose quelle che purtroppo, anche se uno è ragazzo, poi il pallone sembra così, ma il pallone sono colpi che poi lasciano un segno nel contempo, non sono perché soprattutto nelle caviglie e nella tibia lasciano un segno. Io conosco persone che hanno le tibie tutte quante ondulate come sembrano la gomma di un cammello, perché dai colpi che hanno preso giocando a pallone. Perché il confronto c'è domani? Perché io ce l'ho così, però perché nell'urgenza queste due macchine sono fermate per farci passare. E la macchina è uscita da dietro, ci ha fatto capottare tra via d'Italia e via Mendola. Abbiamo preso il semaforo in pieno, come ci ha colpito, ci ha fatto capottare il lato sul semaforo, abbiamo buttato il semaforo e abbiamo capottato il lato. Ero dietro che stavo massaggiando un malato. E a te cosa ti ha fatto? Microfratture di tutta la tibia, poi non camminavo, avevo praticamente i muscoli come quando ti viene il crampo, c'era presente, bloccati così, non riuscivo a muovermi, guarda, un casino. Poi oltretutto la beffa, ci hanno pagato e i soldi praticamente che ho preso per la cura e cosa mi ha tutti fregati l'Inps, perché dice che ho fatto quella malattia che ho fatto, dovevo risarcire all'Inps. Ha scritto l'avvocato dell'Inps che dovevo risarcire lì e i soldi della malattia che avevo fatto. E ho dovuto tornare all'Inps, quelli che mi hanno fatto l'avvocato li ho ritornati a loro, io non ho preso manco una lira. E poi la situazione non ti ha dato niente. L'assicurazione praticamente, l'assicurazione dell'ambulanza, non dell'ambulanza, del tipo che era tornato un ex carabinieri che ci ha preso in pieno, ha detto che per la radiazione delle sirene non le sentite, avevamo la bitonale e con la Clarkson due addirittura di sirene ne avevamo, un incrocio. Ha rallentato, ha visto che le macchine erano ferme perché stava guidando il mio collega, e sono ripartito, questo Cristo ha dietro la fiera della macchina, sono vedi le macchine sono fermate, qualche motivo ci sarà, no? Anche se non lo vedi nessuno. E uscita ci ha preso di lato dietro. E quindi ci ha fatto sballare, perché io in ambulanza del genere, no? Ci sono la barella di dietro. Ci ha preso proprio lo spigolo, ci ha fatto sballare, ci ha fatto prima, come ci ha dato il colpo, ci ha piegato di lato, ci siamo sbattuti al semaforo, ci ha dato il contraccolpo e ci ha fatto capottare. E avevate anche il malato, avevate a bordo? Sì, un malato, un ictus a bordo. Praticamente allora non c'era 118, ci hanno chiamato i vigili del fuoco, che c'era praticamente questa donna che era in comunicazione con loro, al telefono, poi di colpo gli ha detto che si sentiva male, gli ha detto dove abitava tutto quanto, il cognome, e poi quando l'hanno chiamata non... Praticamente ci hanno detto di andare noi, ci arrivavamo prima, se no loro suonavano la porta, invece era arrivata già la figlia, deve essere che ho sentito qualche urlo, il vicino ha chiamato la figlia era una dottoressa, che tra l'altro aveva anche il marito che era dottore, e sono arrivato io, gli ho controllato gli occhi e gli ho detto sì, portiamo la via che c'è un ictus in corso, ma ne sono accorto subito perché ti fa diventare gli occhi rossi per il sangue sotto. E lui ha detto no, lasciatela stare. E ha detto come lasciamo stare la signora, si rende conto che questa signora ha un ictus in corso. Dice guardi che io parlo con cognizione di causa, sono la dottoressa, io per cui dovrebbe, comunque se non vuole che la portiamo mi firmi il foglio, che lì praticamente si sta rifiutando di farla prendere. Io non firmo proprio niente, allora la dobbiamo prendere, aspetti che chiami mio marito che qui è il dottore, è all'ospedale, ha chiamato e ha detto falla portare immediatamente, ci ha ostacolato solo i tempi. Quindi noi cosa abbiamo dovuto fare? Praticamente arrivati lì alla polizia, io mi sono accorto che la signora si stava aggravando e gli ho detto al mio collega, cammina perché ci sta lasciando. Finalmente io stavo massaggiando, ha avuto un arresto cardiaco, ho massaggiato, si va a arrivare lì via Vendola anche all'Italia, lui ha rallentato, ha attaccato due sirene perché nell'incroci attacca quella clacson e quella bitonata, quindi sentiva, ma se la nuova gente che c'era ha detto che la sirena l'aveva sentita addirittura da lì via l'Italia, fatti il conto, e noi eravamo lì via Vendola e quello lì ha detto che non l'ha sentita. Ha avuto il coraggio di dire che stavamo correndo, che qualche là. Ha detto, signore carissimo, noi se corriamo, corriamo per salvare la vita di una persona. Lì invece stava correndo senza motivo e si è sbattuto, oltretutto ha storto e vuole anche prendersi la parte grande. E dice guarda che io sono un ex carabinieri, ne so queste cose, ma lì può essere chi vuole, a me non mi interessa nulla, gli ho detto. Poi quando siamo usciti fuori c'erano tutti quanti i miei colleghi che stavano aspettando fuori, ero scioccato, mi sono messo anche a piangere, figurati tu com'è. Non è possibile. E poi alla fine il malato si è venuto, è arrivato in tempo l'ospedale. Allora, ti racconto la storia. Quando noi abbiamo capottato, io ho sbattuto praticamente sul rubinetto del lavandino che c'è dentro l'ambulanza, ho sbattuto la gamba e poi ho preso il colpo e sono svenuto. Quando sono arrivati i soccorsi e sono venuti tutte le ambulanze, io sapendo che era un'ambulanza, sono arrivati 4-5 ambulanze. Hanno cercato di togliermi fuori, io sono uscito dall'ambulanza, mi sono ripreso come ho sentito che mi stavano togliendo fuori, mi sono ripreso, sono uscito dall'ambulanza, stavo cercando di sollevare l'ambulanza e metterla dritta da solo, adesso non capivo ma cosa in che via eravamo, ero scioccato, non capivo nulla. Per salvare questa signora che praticamente lei era rimasta nella barella caduta, nella barella si è staccata e caduta di lato, e per fortuna che c'era la maniglia che sollevava un po' l'ambulanza, se era richiata. Praticamente questa signora qua si è ripresa, siamo andati anche a trovarla. Immaginate tu, si è ripresa, praticamente sono riusciti a bloccarli, tu si è ripresa e siamo andati anche a trovarla, figurati. Noi invece ci hanno mandato via la sera, c'era un dottore di cavo, certo che non avevamo nulla, e poi mi telefona di notte tardi Danilo, il mio collega, e mi fa: Gianni, come stai? E gli ho detto: non sto bene, non riesco più a camminare, c'ho la gamba bloccata, sono tutto pieno di emattomi. Dice: ma cosa facciamo? Domani mattina ci andiamo. Andiamo lì, ci faccio prima visitare, mi ha detto: ma come ha fatto a mandarla via? Spitta, è tutto un emattoma. Poi dice: facciamo le razze, qua c'è fratture. Avevo, mi pare, 5-6 microfratture, non grosse, ma microfratture in tutta la tibia. E quel mio collega gli hanno fatto la sua, ha detto: vieni Spanella. E tu io: aspetta un attimino, dobbiamo mettere subito il collare. Gli metto il collare, ha detto che c'aveva una vertebra che si stava staccando, che si stava tutto ricoverato. Non è possibile. Non sono lì a tanto soccorso, non è che se no tanto bravi, lo so. Ma quando mai arriva uno che ha un dolore così e non gli fa la lastra subito e lo controlli? No, lo mandi a casa così e lo costringe a venire domani e ti rendi conto che puoi avere fratture. Vabbè, quelli di tutto soccorso secondo me sono dottorini, non è che sono molto esperti, sono forse le prime armi, che ne so, non sono proprio capace per niente. Non è possibile. E meno male che con la luna si è ripresa pure. Mi avete subito le conseguenze voi, nonostante che siete andati a salvare lì, a causa di questo cretino che ne è uscito pure da dietro le macchine e ha causato l'incidente. A pronto soccorso, guarda, ce n'erano due o tre che erano bravi. C'erano Carta, dottor Carta, che è stato in pensione, e quello era uno dei più bravi, forse il più bravo, no? Quello che a me mi ha sempre ispirato come dottore. E poi c'era Barria, e un altro robusto che non mi viene come si chiama. Erano in tre, che erano abbastanza bravi come dottori. Poi adesso la medicina d'urgenza l'ho fatta da dottori esperti, non da dottori di cavolo che non sanno manco dove c'erano la testa. Quello che a me mi ha mandato a casa erano imbriagoni che non finiva più. Addirittura quando arrivavamo lì con l'ambulanza scoggia, ma poi quando torni la bottiglia di birra me la porti. Sempre va come un turco. Proprio vago metti la spugna. Ti puoi immaginare che ti puoi fidare di farti mettere male da una persona di genere? No. Sì, no, io mi ricordo, adesso che ero in ospedale ho trovato un dottore, che ormai è anziano, che avevo incontrato tantissimi anni fa, quando mi ero fatto male a un dito, lavorando, mi ero fatto male a un dito, e lui praticamente aveva puntato il dito, perché avevo perso anche l'unghia del pollice, e me l'aveva ricostruita praticamente la punta del dito, e adesso me l'ho trovato ultimamente, in quei giorni che ero in ospedale, però adesso è in corsia e un medico proprio ha fermato, ma prima era un dottore alle prime armi, ed era tutto soccorso, poi evidentemente quando fanno esperienza le mandano in corsia, capito? Ma i medici di urgenza devono essere pronti a tutto. Io mi ricorderò sempre di una volta che ci hanno dato un trasporto che si è trasformato in urgenza. Questa donna ci hanno detto praticamente dovevo portare dal reparto al pronto soccorso, dal pronto soccorso la dovevano fare ricoverare in un altro reparto. Però mi hanno detto, ricordatevi sempre che questa donna non deve essere staccata dall'ossigeno, perché se la staccate dall'ossigeno alla fine è sua. Cosa ho fatto io? Siamo arrivati sempre con l'ossigeno attaccato, ho preso l'ossigeno portatile, le ho attaccato l'ossigeno portatile dentro. L'abbiamo vista che non stava bene, ha detto, dottore, leggendo il giornale, dottore, questa signora sta molto male, e un attimino sta arrivando, ma è continuato, dottore, a un certo punto questa qua comincia a rantolare, e il dottore si è dato il colpo, no, prima gli ho fatto l'impulsito, dottore, ma si vuole alzare, sì o no, questa qua sta morendo. Ha cominciato adrenalina, piastra, questo, quell'altro, non so che fine abbia fatto. Non lo voglio manco sapere, perché se no mi toccherebbe denunciarlo se è morto. Ti puoi immaginare che elemento è? Boh, pure non è possibile. Boh, stanno quello che fanno, non si è entrato nessuno. Si vede che sono tutti quanti stanchi e stanno dormendo. Oggi non voglio nessuno di modulare, sono lasciato solo. Sì, ci saranno 50 orecchi di porto. Molta gente ti ascolta. Sì, li vedi. Ciao, Antu. Signori, è un piacere. Scusatemi, ma oggi ho avuto ospiti a casa, quindi non posso fare questo, però è un piacere ogni tanto venire qua e ascoltarvi. Antu, che guarda quello che ti dica. No, ma cioè, stavo pensando, adesso mi è venuto in mente, se vogliamo incrementare la frequenza, però nessuno entra, poi alla fine, tutto sommato, siamo sempre a punto di partenza. Io dico che è meglio pochi ma buoni, e pochi ci sono, ma soprattutto buoni, però aspettatevi la prossima ondata, perché adesso organizziamo una cosa che già sta già partendo. State attenti nei prossimi giorni, perché vedrete i funghi saltare fuori, e questa è una promessa. Prendo sul balzo qua e non ho capito cos'è, qual è la sorpresa? Allora, se siete sovramodulati è passato già anni, comunque non c'è problema, non tanto gli amici, ma vedrete, state attenti un attimino e vedrete che minimo non vi voglio sbilanciare, una quindicina di persone in più. Donne vogliamo. Già chiami le donne, come parli di donne, salta fuori subito il Fabrai, avanti Fabrizio Occhi di Gatto. Solo per quello, vi stavo ascoltando, ma sono entrato solo per quello, per salutare, visto se c'è questa possibilità, io faccio la cernita, io inizio a controllare tutto. Assolutamente, ci leggiamo, ci mettiamo cosa, come si dice, gran doganiere, per chi parla è bene. Oppure che gran puttaniere, vedi tu. Ciao Fabrizio. Ciao a tutti, Ciao Fabrizio. Ciao a tutti, ciao Giulio, ciao, mi sembra che c'è Giulio, ho sentito. Ciao Doppio Rump e poi al Grode. Ragazzi, ma scherzavo, anche se sono maschi mi fa piacere lo stesso. Comunque, se sono donne è ancora meglio, perché per rallegrare il canale. Così entro un po' più spesso. Giusto. Che con questi vecchietti qua. Allora. Ma buoni però, vecchietti ma buoni. Dai Giulio, mio nonno, si è risentito, hai visto? No, assolutamente. Io sono dopo vecchietti della frequenza, guarda. Perché io devo dire che mi sento molto ma molto giovane e soprattutto in grande forma. Quello sì, quello l'ho visto, non ti posso dire niente, edizione, sperando di arrivarci io così giovanile e così bello pimpante, sono già tutto mezzo distrutto a 42 anni, immaginate un po'. Potessi dopo i 40 anni quanto in discesa la strada. Lo so, per quello sono sempre col freno a mano tirato, cosa ci vuoi fare? Come so, ci dice sempre che si va in salita, più sono gli anni che più si va in salita. Dicendo per quanto riguarda la velocità degli anni già. Ci dice sempre, più passano gli anni e più si raggiunge la vetta. Lo so, la cima è comunque ancora molto lontana, diceva Fabrizio. soldi, se ne busco qualcuno mi prese la macchina. Non c'è problema, almeno due devi procurare. Un giorno andiamo a Targa Alterne. Ma che tre anche ce ne sono, dai. Vabbè, dai, non si scherza naturalmente. Non prendiamocela davvero. Fabrizio, lo sappiamo che è un volpino. Era un volpino, io. Che pensi, Fabri, quando tu sei nato, cioè quando io sono nato, frequenza tu avevi appena due anni. A te immagini quanto sei vecchio, Giulio. A te immagini, non me ne ho preso conto. Avrebbe dovuto lavorare a tavoli, Fabrizio, a demolire le persone, è fatta apposta. No, ho questo difetto, mi come sono un po' bastardello, però è questione di DNA quello. Ma è nato fuori e dentro, così? Fuori e dentro. Pagato. Ma Giulio è una persona in gamba. Io guarda, è molto giovanile, scherza, fa, quindi non si sente nemmeno l'età che ha. Che poi non è così vecchio, i vecchi sono gurucci, vero? E io non credo. E poi io gli direi anche senza presunzione, ma con uno schiaffo discreto. Non mi credi, io ti credi di una cosa. Vabbè, non per quello non ce n'è problema, ormai hanno la fortuna questi vecchietti che con la pastiglietta blu risolvono anche quel problema. Non è il mio caso. Buonasera. Se no ci agge come carica, ciao, ti abbiamo nominato poco fa, Archimede, non so se ci sentito. Avanti, buonasera. Buonasera. No, Antonio Grotte c'è per caso? Sì, che c'è, avanti Grotte. Non so cosa stia facendo, però era corrotta con noi. Stavo appunto accennando a Giulio del filmato che avevi fatto su Facebook. Però lui non ti può vedere perché non sa né cognome né il nome, sì, ma il cognome no. Massimiliano Pischezza, non c'è da andare lontano, non ne ho vergogna di dire il mio cognome. Vabbè, io per riservate te non l'ho detto, non mi sono permesso di dirmi. Come Massimiliano? Come così tardi oggi? Ah, ho finito quella bozza di software che sto facendo, che il calco dell'antenna. Come sapete c'era Antonio per mandarglielo via email, così gli dava un'occhiata, una sardina. Piacere, forse si è allontanato un attimino, non lo so. Giulio, riprendi, c'è anche Giulio, avanti. Ok, ciao Massimiliano. Mi sono dovuto fare aumentare il volume. Vabbè, stavo dicendo, Massimiliano, e poi del progetto antenne, cioè, del tradotto dai mesi sullo filtro? Cosa sto dicendo? L'ho appena terminato, è da ultimare, grafica e quant'altro, però i calcoli già li fa. Ah, ho capito. Sì, no, non me l'avete già niente, qualcosa avevi già messo, però dice bisogna sapere, cioè bisogna scrivere il tuo cognome, ma io non lo sapevo. Io non avevo dovuto nemmeno chiedere a Gianni perché non era giusto, non era corretto, ma adesso me l'hai detto tu, dunque va bene così. Basta digitare quello sulla tastiera. Come cognome? Massimiliano Pischezza, è già messo così, già c'è la mia faccia brutta. Vai su Facebook e poi digiti quello. Ho capito, va bene, avanti proprio. E mi riprendo io, sono entrato giusto per salutarvi, ciao Archive. Adesso chiudo tutto quanto, dai, che mi sto guardando la 7 e sto vedendo un pochettino come va bene l'Italia e sono molto contento. Ma non è guardare, certo ti fa venire malumore. Questa gentaglia, adesso stanno dando, diciamo, il via a tutti i principali di buttarsi fuori chi vogliono, chi odiano, chi fanno, anche senza motivo. Ma dimmi tu, io non posso licenziare lui senza motivo. Hai capito, cioè alla fine io posso anche capirlo, perché un periodo di crisi, per carità, bisogna fare, anche se le aziende devono essere più competitive, insomma, anche da così, può anche vedere, tante cose si possono vedere, ma sempre dalla solita parte stai picchiando, ma perché non inizi anche dall'altra parte, da veramente chi c'ha veramente i soldi, gente che gira veramente i soldi e tutti gli amici degli amici a toccare, far pagare le tasse a chi non le paga, a chi fa evasione totale o chi gira eccetera eccetera, lasciamo perdere. Ma a parte quello, ci sono dei parlamentari che entrano in Parlamento, vuol dire ci stanno pochi mesi, 3-4 mesi, poi si rendono conto che non è roba per loro, se ne vanno via, si beccano 3.000 euro al mese, cosa che non guadagna un operaio, una vergogna, per pochi mesi che è stato lì, una pensione, loro dicono vitalizio, ma è una pensione di 3.000 euro al mese. Capito, 3.000 euro, sai cosa vuol dire? Che cambiano tutta la vita tranquilli. Hai visto adesso, dovevamo fare tutti i tagli eccetera eccetera, è uscito fuori che c'è stato un errore, che non li fanno i tagli perché loro non sono dipendenti pubblici, capito? Sì. Hai fatto una guerra civile, mi sarei fatto tutti brincati. Non ti preoccupare che a breve qualcosa succede, non ti preoccupare. La gente è troppo incazzata, dentro una rabbia dentro allucinante. Ci sono padri di famiglia che non sanno più come fare perché non c'era lavoro, non sanno come mandare avanti la famiglia. Molti si uccidono perché è una vergogna per loro stare senza lavoro e non riescono a trovarne altro, alla fine poi va bene che si ammazza. Normale, ma prendi me, te, tutti quanti, cioè voglio dire, ognuno c'ha le sue cose, io ormai ho 21 anni, 22 anni che lavoro tranquillo, sempre, ho fatto 2000 cose, poi lavoro l'affisso, poi faccio, ho fatto di tutto e di più, voglio dire, no, tanto perché c'era da fare. Ed oggi io ho quindi sempre lavorando, ho sempre avuto i soldi in tasca, mi sono sposato, ho famiglia, ho realizzato qualcosa anche di più, ho fatto quello che dovevo fare, ognuno fa. Ma immaginati, di colpo, cacchio, cioè, su altri fronti non si lavora più, di colpo perdi anche il lavoro, perdi quell'altra entrata, io ho qualcosa affittato e non ti pagano. Cioè di colpo ti trovi senza, abituato a 22 anni a dover campare i tuoi figli, a portarli a fare, ti trovi senza soldi. Di cosa faccio? Io sarei un uomo finito, non saprei da dove puoi girarmi, non so come reagirei, immaginate un po' come fai a pagare tutto quello che ti sta dietro, quando c'è una famiglia devi pagare da mangiare, e luce, acqua, macchina, presta, puttanate, cagate, cioè ti manca l'entrata, cosa fai? Cioè te uno esce di testa. E poi uno si basa fare spese in base a quello che guadagna, quindi per dire se ti devi fare un'assicurazione a vita te la fai, quello ti posso dire, ti giusti la vita come meglio vivi, ma sempre scontando sullo stipendio. Quando poi ti manca di colpo, ti trovi tutte queste cose che tu hai, stai pagando, stai facendo, te le trovi tutte cose da pagare. Io, grazie a Dio, la verità non ho niente, ma diciamo che c'è gente che c'ha quelli di mutuo, roba del genere. Io ci ho pensato a quando avevo 19 anni a farmi la casa, meno male che ci ho pensato. Adesso mi trovo tranquillo, ma da tanti anni già che pagate tutto. Però c'è gente che sta cominciando, io ho colleghi che stanno cominciando negli altri 15 anni da pagarsi. Sì, ma infatti è così, voglio dire, anch'io grazie a Dio è una situazione che non ho problemi, non ho nemmeno un debito, non è, voglio dire, però vivo tranquillo, grazie a Dio, però voglio dire, da un giorno all'altro potrebbe cambiare lo scenario, cioè per chiunque, capito? Cioè io, ognuno si regola la vita in base alle entrate, no? Che già sono diminuite in confronto a come era qualche anno fa, e va bene, uno si arrangia, si organizza, ma se ti mancano quelle entrate, c'è probabilmente chi ancora si sta pagando la casa, che sta ancora peggio perché ne portano via anche la casa. c'è chi ce l'ha già pagata che non ha problemi, comunque cazzo ti trovi senza stipendio, cosa fai? Io mando i bambini e non li mando in palestra, e da mangiare e andare da mangiare a mamma, e la luce la devi pagare, e la macchina ecco la fai, la blocchi in garage o la vendi perché non puoi mettere benzina, cosa fai? Da 1, 2, 3, 5 mesi riesci a resistere, 6 mesi, 7 mesi, e poi cosa fai? Poi ti puoi anche impiccare, perché trovare lavoro adesso è un casino. Vabbè, tu c'hai anche questa manualità, riesci a fare qualche altra cosa, magari ti pieghi le maniche e ti metti a fare canottiere, per dire. Sì, no, voglio dire, sì, io grazie a Dio potrei fare tante cose, però quando, infatti ho fatto compravendite, già ne ho fatto, ma quando i soldi giravano, in questo periodo che non girano soldi, che cavolo fai? Che cavolo fai? Cioè, non lo so proprio, Allora, dai, esci che chiuso, se non mi incavolo, mi metto in malumore, che anche da noi tempo fa ci hanno fatto una cosa come multinazionale, ma forse è andato tutto a fanculo. Allora, io saluto tutti quanti che continuano a vedermi la sette, che sono tutti incazzati, sono più incazzati di me questi. Vabbè, vai, tranquillo, non vi bisogna campare la giornata, cosa vuoi fare? Avanti, Giulio, puoi far girare. Ok. Vabbè. Purtroppo così, Fabio. Io dico solo una cosa, speriamo che gli italiani se ne rendano conto di questa classe politica e basta, che magari alle prossime elezioni cambia qualcosa a livello di popolo, perché mi sa che sono già 15 anni che sta amministrando questa belva, perché per me è una belva umana quella che si sta mangiando gli italiani, e dico solamente che l'ha rovinata. Però lui dice che i debiti c'erano già da prima, sì, ma tu in questi ultimi 17 anni hai amministrato per 15 anni, dunque non hai fatto niente per risolvere l'Italia, perciò anzi devo dire che va affondata sempre di più. Comunque mai si vede, io sono politico, non me ne frega per tanto, e di conseguenza è meglio nemmeno alle volte parlarne, perché sennò uno deve anche beneficiare. Vabbè, Lotte si è rientrato? Lotte non è rientrato, ma ci ha fatto un altro break, poc'anzi mi sembra. Avanti, chi era il break? No, forse ho sentito male. Massimiliano. Ho segnato quanti anni sto lavorando qua al DC. Ciao Fabrizio. Continuate pure. Tanto voi sono sempre i soliti discorsi, non fai altro che sentire gente che si lava in salita. Certo, io per dire nei vostri ho capito che passo, eccetera, eccetera, siete clienti che si lamentano, che non ce la fanno a pagare fino a fine mese, non ce la fanno a durare, specialmente i pensionati stanno dicendo sempre che la pensione non basta più, che non sanno più come fare a fare la spesa. E arrivarci a pagare quello lì di mangiare mezza pressione, insomma, diciamo che c'è un malcontento da parte di tutti. È normale che ci sia un malcontento, se non gira l'economia, non c'è lavoro per i giovani non si possono sposare, anzi addirittura non imparano nemmeno un mestiere, perché nessuno prende più a lavorare. E allora, però loro non fanno altro che dire studiate, poi ti studi, ti laurei e non riesci ad avere un posto di lavoro. La prima mia figlia, laureata una decina d'anni, forse anche di più, e non riesce ad avere un posto di lavoro, ma non è possibile. Purtroppo l'Italia sta andando a rotoli con questa classe politica che abbiamo già, non c'è niente da fare. Ha ragione Fabrizio quello che dice, è tutto diventato difficile oggi, anche per comprarsi il pane giraria per certa gente è difficile perché non hai soldi. Tu pensionati però troppo poco le pensioni, dovrebbero togliere qualche cosa parlamentare dalle pensionati alla gente che ha bisogno. Perché pensionati con una pensione di 400 euro al mese non possono vivere. Purtroppo così, invece di fare. La moglie di Bussi è fatta in pensione a 39 anni, per loro vanno bene i pensionati. parti, invece per i laboratori, quelli che soprattutto quelli che fanno lavori rullanti, non quelli devono fare 40 anni di tossamento, devono fare, quelli devono morire sul posto di lavoro prima di arrivare alla pensione. Purtroppo è così, cosa vuoi fare già? No, e poi si fa, si ha preso il baculino del figlio, perché colui è un baculino, ovviamente, perché è un demente per conto mio, perché una persona, un politico che parla nel modo che parla lui, non merita di amministrare l'italiano, guarda. E si ha preso come figlio, lo usa come baculino per portarlo, a parte il discorso della malattia che ha avuto, però per me è un demente proprio, per natura quello lì, perché non è possibile che possa dividere l'Italia e dire le cose che dice. Non possibile, li vogliamo rapida. Mi ha detto chiaro e tondo il Presidente della Repubblica che certe cose non si possono fare, di smetterla, di dire che esiste la Padania, che la Padania non esiste, che esiste la Carola Padana ed è appartiene all'Italia, non esiste la Padania. Cosa vuol dire questa parola Padania? Ma che ti dica? Sì, però io parto sempre da un principio che la colpa degli italiani che l'hanno votato, tutto lì. È quello, il punto più dolente secondo me è quello, gli italiani che l'hanno votato e che continuano a votarlo. Addirittura lo esaltano, lo inneggiano, lo rispettano, eccetera, eccetera. No, ma c'è vero. No, tutti quanti e tutta la politica mondiale, non solamente quella italiana, perché la politica per conto mio è la bestianera dell'umanità intera. No, ma è questo. Come hanno fatto a permettere di mettere le guardie padane, di fare tutte queste cose a conto loro? No, non riesco a capirlo io questa cosa qua. Appartengono all'Italia, devono fare gli italiani, ubbidire le leggi italiane e basta, cosa stai a metterti le guardie padane? C'è le guardie, lo sai. Ho detto, quello è un malato mentale, non è possibile, sono un politico, uno, che amministra una nazione importante come l'Italia, non può fare certe affermazioni e creare questo disordine, perché chi sta creando disordine non lo sono quei scamarati che vanno in piazza a fare una specie di guerra civile, lo sono voi, politici, che obbligano quasi in un certo senso per il modo come si comportano a fare queste manifestazioni di piazza così violente. Io avrei fatto una polizia nella politica allucinante, ci avrei messo gente giovane con idee che pensi soprattutto ai giovani a dare lavoro e a tutelare anche chi sta lavorando naturalmente, perché un padre di famiglia non puoi buttarlo a casa. Se io posso anche accettare, finisci di lavorare, sì, ok, stai tanto per vivere e io smetto di lavorare, non c'è problema, però tu non mi puoi dire da domani non ci vieni più perché ho deciso così. Hanno dato praticamente il permesso ai principali licenziati quando vogliono, se ti sempre e tu non vai d'accordo col principale, ti sbatte fuori così senza motivo. Sì, infatti è una cosa assurda questa, è una cosa assurda, non si può. Uno se vuole, un principale prende, ti trova una scusa qualsiasi e ti butta fuori. Per la legge è in regola, non va bene, ma quella è anche la colpa dei sindacati che non si sanno, diciamo così, non sanno dimostrare la vera forza del sindacato, non la sanno mostrare, perché non è vero che difendono gli operai, che ormai sono loro che si fanno la poltrona più soffice proprio alle spalle degli operai, perché poi lo sappiamo, tutti i sindacati diventano tutti politici dopo, tutti vanno in Parlamento. È successo sempre così e sarà sempre così, è inutile che loro. Io dico solamente una cosa, per me i sindacati hanno rovinato, soprattutto loro hanno rovinato il mondo del lavoro, per vari motivi che adesso non so di elencare. Io dico una cosa, i sindacati prima facevano una lotta dura e tutelavano l'operaio, adesso non lo fanno più, se tu al sindacato dici non va bene questo, non va bene l'altro, ma cerca di sopportare, siamo in tempi che non possiamo lottare, dobbiamo solo si faceva prima, perché stanno licenziando, ma no, perché cosa te ne stiamo dando 13 euro al mese? Spiegamelo. A questo punto c'era rimpianto dei tempi, i tempi passati, quando effettivamente erano brutti, forse erano migliori di oggi, perché oggi devi pensare solamente ai giovani, perché i giovani non riescono ad avere alternative in nessuna maniera. Così che puoi dire, ecco, adesso poco fa stavamo parlando di basta, stavamo parlando, tu pensa che i nostri amici resta, a quell'età ancora ci sono persone che non hanno iniziato a lavorare a 40 anni, perché ti puoi immaginare che problema grosso è questo, ma non deve fare niente con questo politico, tanto loro stanno bene, ai sindacati non deve fregare lo stesso, perché si stanno facendo e si stanno creando una persona sempre più comoda anche loro, perciò ripeto, sempre spalle degli operai. Sempre, sempre. Operai artigiani. Mi ricordo mio padre che si lamentava sempre, diceva noi siamo le categorie che siamo più bersagliati, io dice faccio un paio di scarpe e devo subito fare la ricevuta fiscale, se per dire devo annotarlo nel coso del registro di cassa, insomma devo praticamente tutte le cose, ogni cosa che faccio è tartassata. Per loro è tutto rose e fiori. Purtroppo così già. La vuole. Io chiudo già. Ci sentiamo forse domani. Bisogna dire forse perché non lo so se domani ne ho voglia. Ciao ciao, grazie della chiacchierata. Ci sentiamo. Ciao Fabrizio, se sei ancora ascolto, buonanotte e anche Massimiliano. Buonanotte a tutti. Riprendi già. Buonanotte Giulio, ci sentiamo alle prossime, ti faccio sapere quando arrivano le maniglie. Buonanotte, buonanotte. Avanti Grotto. Allora non risponde Giulio. Massimiliano. Sì, ti sento anch'io, dai. Buonanotte Giulio, buonanotte a tutti. Ciao Gianni. Ciao, ci sentiamo, buonanotte.